In particolare il mio compito, il compito che mi sono proposto è quello di illustrare, come dice il titolo, alcune nuove prospettive sul clerico moderatismo. Quindi questa relazione si colloca come momento, aspetto di quel quadro più generale che Fonzi ieri ci ha brillantemente presentato. La mia relazione si divide in tre punti o tre questioni. In primo luogo affronterò il tema di un'ulteriore definizione delle nuove prospettive storiografiche sul movimento cattolico che Fonzi ha chiamato neomarxiste e che ci interessano da vicino perché, a mio modo di vedere, hanno il loro perno nell'uso molto, molto esteso e direi quasi ossessivo della categoria storica del clerico moderatismo. Il secondo punto sarà un tentativo da parte mia di verificare storicamente la genesi del termine clerico moderato e di confrontare tale originario significato con gli usi che ne sono stati fatti dalla storiografia. La terza parte saranno alcune osservazioni sui limiti e il senso reale, sui vantaggi e gli svantaggi di queste nuove prospettive sul clerico moderatismo. Io credo, passando al primo punto, che non si possa trascurare assolutamente per cogliere e qualificare queste nuove tendenze, fino a che punto nuove, poi lo vedremo sul clerico moderatismo, non si possa qualificare queste tendenze senza rifarsi al mutamento della congiuntura e del clima, direi, politico-economico in cui questi storici si collocano rispetto alla precedente tradizione storiografica italiana sul movimento cattolico. La migliore storiografia tradizionale, chiamiamola così, comprendendo tutti quegli autori che noi conosciamo e che Fonzi del resto ci ha ricordato, la migliore storiografia tradizionale sul movimento cattolico si è mossa nel secondo dopoguerra in larga misura all'interno di quello che è stato chiamato, che è stato detto, il revisionismo risorgimentale. Vale a dire il tentativo compiuto dalla storiografia italiana di superare la prospettiva liberale dell'apologia del risorgimento, prestando una nuova attenzione da un lato ai ceti cosiddetti subalterni o comunque alla storia di quegli strati sociali che appariva sempre più chiaramente essere rimasti esclusi dal processo risorgimentale e dall'altra parte alle forze politiche che questi ceti rappresentavano. Queste forze politiche non a caso erano quelle che apparivano dopo la Resistenza come le forze cardini intorno alla quale si era costituita la Repubblica Democratica. E tra queste cardini, ovviamente, i cattolici e il Partito Cattolico assumevano il maggior rilievo, dato che un partito il quale era divenuto maggioritario rappresentava nel panorama politico italiano un fenomeno talmente macroscopico e diciamo pure nuovo da richiedere una spiegazione storica. Direi molto schematicamente che il problema dominante di fronte al quale si trovarono gli storici sul movimento cattolico nel secondo dopoguerra in Italia era di spiegare, di indicare la via per per cui si erano allargate, così si diceva, le basi dello Stato liberale oligarchico e si era formato lo Stato repubblicano democratico. Attraverso, insomma, quale processo lo Stato liberale era divenuto in Italia Stato democratico. E direi che in questa direzione venne utilizzata anche l'analisi gramsciana, che influì sicuramente in modo notevole sulla storiografia e sul movimento cattolico dopo la pubblicazione soprattutto dei quaderni del carcere, dove veniva affrontato in termini notevolmente originali il problema, per esempio, dei contadini, il problema del clero, la questione meridionale, cioè appunto quella tematica che si riguardava prevalentemente la questione delle basi sociali dello Stato unitario. Non meraviglia allora, e mi pare anzi del tutto ovvio, che all'interno della storiografia sul movimento cattolico di questi anni, che ho definito tradizionale, tendesse a prevalere una, non dico in modo esclusivo, ma a prevalere l'analisi, le ricerche relative alle forze politiche e oppure alle componenti ideologiche, agli apporti ideologici di queste forze politiche. Ci troviamo di fronte ad una storiografia che, risentendo del resto, come ricordato Fonzi, ancora della tradizione della storiografia etico-politica, si muove essenzialmente intorno a temi politico e ideologici. In questo quadro il clerico moderatismo, sia pure giudicato in modo molto difforme, cioè giudicato con d'angolature diverse se non addirittura opposte, era tuttavia considerato sostanzialmente da tutti gli storici sul movimento cattolico un momento specifico, un tassello, direi, un punto di passaggio significativo, ma non esclusivo, di questa storia che, partendo dalle prime organizzazioni intransigenti da un lato e dall'affiorare del transigentismo dall'altro, si concludeva in un certo modo nella vittoria, nella formazione e nella vittoria della Democrazia Cristiana del secondo dopoguerra. Il dissenso, insomma, tra gli storici, anche drastico, anche acuto, verteva sul complessivo significato politico del clerico moderatismo. Per esempio, nei suoi rapporti con la genesi del Partito Popolare del primo dopoguerra in relazione alle precedenti esperienze politiche del movimento cattolico. Mi pare di poter dire che lo studioso il quale analizzando le premesse del clerico moderatismo in questo quadro che, ripeto, era essenzialmente politico, analizzando le premesse dei contratti o patti clerico-moderati, come anche li ha chiamati, e individuando queste premesse nelle tattiche elettorali seguite nelle elezioni amministrative di Milano del 95, e che ha dato un'interpretazione, direi, più decisamente positiva, diciamo pure in senso di vederne un fattore di progresso, di allargamento democratico, però, nel clerico moderatismo, nella tattica clerico moderata, come momento essenziale e nell'insieme positivo dell'inserimento delle masse organizzate cattoliche nella vita dello Stato, considerando questo inserimento come alternativa sostanziale al predominio dei liberali, del Partito Liberale, Fausto Fonzi, nella sua nota opera su Crispi e lo Stato di Milano. Mi permetterei, perché mi sembra un punto di partenza indispensabile, citare alcuni dei giudizi di Fonzi che si riferiscono appunto a questo momento. Parlando appunto dei patti, dei contratti, del contratto clerico moderato del 95, Fonzi dice: non si ha, insomma, l'alleanza di due partiti affini per il raggiungimento degli stessi obiettivi. Due partiti affini non sono naturalmente il partito, tra virgolette, cattolico, ovvero e liberali a Milano, ma piuttosto la convergenza e l'accettazione dello stesso strumento elettorale da parte di forze politiche diversamente orientate, moderati governativi che si propongono soprattutto il consolidamento dell'ordine stabilito e il rafforzamento della classe politica cittadina e nazionale, trovano insomma conveniente preparare una lista di candidati in comune coi clericali, che mirano invece soprattutto a inserirsi nel gioco politico per la sostituzione o almeno per una radicale trasformazione proprio di quella classe dirigente e per la instaurazione di un ordine diverso. Sottolineerei queste parole. I due contraenti non sono quindi legati da un obiettivo comune, ma soltanto dalla volontà di entrambi di evitare il trionfo della coalizione democratica. Si potrebbe dire: hanno comuni avversari, ma sono tra loro diversi. Poi Fonzi polemizza contro l'uso improprio del clerico moderatismo, e su questo ritorneremo. E ancora più avanti afferma: il clerico moderatismo è fondato proprio sull'accordo tra le ormai potenti organizzazioni confessionali clericali e il Partito Liberale. Si tratta cioè dell'incontro di valore contingente e strumentale fra due movimenti ben distinti, con diversa natura e ben differenti programmi, del momentaneo accordo tra due autentici partiti, quello clericale e quello moderato. E l'incontro sarà possibile solo quando in Italia esisterà un vero e forte partito clericale, cioè soltanto alla fine del secolo scorso. E il clerico materialismo solo in apparenza rappresenta il trionfo del conservatorismo e dei cattolici conservatori. Certamente questi sono spesso entrati nelle liste clerico moderate, ma in realtà la loro presenza non è necessaria o indispensabile, perché i veri contraenti sono i liberali moderati e i clericali, organizzati e militanti, gli eredi della tradizione intransigente. Ancora, il contratto clerico moderato milanese del 95 costituisce davvero un fatto nuovo e storicamente significativo. Non rappresenta solo un episodio tra i tanti nei quali durante l'Ottocento e anche in seguito vediamo cattolici e liberali allearsi e confondersi soprattutto sul piano amministrativo per combattere efficacemente i democratici anticlericali. Non si tratta insomma di uno dei vecchi accordi tra conservatori cattolici e liberali, si tratta invece di un fenomeno nuovo e diverso. Sarà costituito dall'accordo tra liberali, spesso sostenuti dal governo, e clericali. Non si fonderà su alleanze tra conservatori divergenti solo in questioni religiose e ecclesiastiche, ma invece su dei contratti tra esponenti autorevoli del liberalismo nazionale e dirigenti delle organizzazioni cattoliche, tra parentesi, papali e intransigenti. Gli accordi clerico-moderati si concludono e hanno possibilità di successo in quanto sono fondati sull'appoggio di governanti di sinistra all'unione elettorale di clericali e moderati, cioè sopra l'unione di tre forze politiche impegnate a combattere insieme contro i blocchi popolari, appunto, che sono la sinistra, i moderati e i clericali. Milano precede quindi il resto d'Italia e gli agenti di Crispi nel 95 ottengono sul piano amministrativo, ma in una città come Milano, quello che sul piano politico nazionale otterrà Giolitti dal 1904 al 1914. Ora, su queste opinioni, posizioni di Fonzi, così chiaramente espresse in questo libro, ma che già, se non sbaglio, erano state indicate in opere precedenti, non si può certo dire che vi sia stato allora un accordo sostanziale. Vi è chi, sottolineando il distacco, il disaccordo, vero, che l'affiorare del clerico moderatismo provoca all'interno del movimento cattolico e la contrapposizione che ai clerico moderati in cui si pongono rispetto ai clerico moderati i democratici cristiani autonomi, ha piuttosto sottolineato, vero, la positività, diciamo, la funzione progressista esercitata da questi ultimi anziché dai primi, sicché in definitiva la discussione è poi ricaduta, come era inevitabile, però sulle origini, sulla preparazione e sulle genesi del Partito Popolare, di chi il Partito Popolare era realmente figlio. Non credo che sia assolutamente qui il caso di riprendere questa tematica che credo largamente nota. Mi preme invece, continuando nel mio discorso, vedere quali sono gli elementi obiettivamente nuovi nei quali che caratterizzano la posizione di questi nuovi approcci storiografici. La nuova storiografia si colloca invece rispetto alla prima, per la cui preoccupazione politica, diciamo così, di fondo ho cercato di indicare, si colloca nel quadro della crisi della democrazia cristiana e contemporaneamente del modello di sviluppo del capitalismo italiano. Risente i contraccolpi della contestazione, della crisi del riformismo e dei tentativi riformistici del centro-sinistra, e cerca una legittimazione storica alla propria polemica antiriformistica e alle proprie istanze rivoluzionarie. Questa storiografia ha un assunto fondamentale che non riguarda solo il movimento cattolico. Intendo dire che questi studi sul movimento cattolico appartengono chiaramente ad un filone di interessi, ad una produzione che ha spaziato in altri campi. Ricordo soltanto, per fare un esempio, una biografia di Salvemini che mi pare si possa essere avvicinabile a questo tipo di impostazione. E dicevo, si fonda a questa storiografia un assunto fondamentale che rappresenta anche un nucleo di interessi dominanti, che schematizzerei secondo questi punti. Questa storiografia si interessa delle caratteristiche e dei modi dello sviluppo capitalistico in Italia, visto come fattore strutturale dominante di lungo periodo. Secondo punto, applica all'Italia tesi relative ai rapporti tra sviluppo e sottosviluppo, accetta come dimostrata la linea della sostanziale continuità di tale sviluppo nei suoi termini essenziali dal Risorgimento all'era democristiana, applica all'Italia le tesi sul capitalismo finanziario come vero protagonista del periodo del capitalismo monopolistico e sui suoi inevitabili sbocchi imperialistici. Tuttavia, da un punto di vista ideologico, usiamo questo termine forse improprio nel caso specifico, io penso che alla base di questo prevalente interesse storico, che è carico però come del resto è ammesso in modo esplicito, vero, di immediate istanze politiche, nel retroterra, diciamo così, alla base di questo prevalente interesse storico-politico, sta un'altra questione, non sempre esplicitata, ma ancora oggi dominante, e cioè sta la polemica sul fascismo. Probabilmente non si intenderebbe le nuove impostazioni relative al movimento cattolico, in particolare al clericomandantismo, se non ci si rifà al dibattito che ha investito la cultura italiana e non solo la cultura in questi ultimi anni sul significato del fascismo, l'interpretazione del fascismo. Mentre la storiografia classica sul movimento cattolico, pur divisa da giudizi, nei suoi giudizi circa il fascismo, partiva dalla considerazione di un suo reale superamento da parte dell'Italia post-fascista, per cui la Resistenza e la Repubblica erano comunque sentite come una storia diversa rispetto al fascismo, e il fascismo quindi una cesura, in un certo modo, nella storia d'Italia, che era stata felicemente o meno felicemente superata, però, con la Resistenza. Le nuove generazioni di storici neomarxisti tendono a ravvisare nel fascismo l'anello di congiunzione tra lo Stato liberale e lo Stato democristiano, nel nome di una permanente prevalenza delle forze della borghesia capitalistica monopolistica. Direi qualcosa di più, che mentre in taluni casi, mentre si arriva ad ammettere che il fascismo aveva un'anima anticapitalistica, e qui mi rifaccio alle ben note tesi di De Felice sulla distinzione del fascismo come movimento e del fascismo come regime, si insiste nell'affermare che il fascismo come regime non ha rappresentato in realtà la vittoria del fascismo come movimento, ma ha rappresentato la vittoria delle forze conservatrici tradizionali, e tradizionale nella storia d'Italia, quindi quelle che allineavano già nello Stato liberale e che sono poi continuate nell'Italia post-fascista, e tra queste forze prevalentemente quelle cattoliche. Per cui non il fascismo, mi sembra di poter dire un po' paradossalmente, ma il clerico moderatismo sarebbe la vera costante della storia d'Italia. Vi sarebbe questo tipo di tesi, vero, è sostanziata dall'affermazione, per esempio, dell'accordo fondamentale che tocca le radici stesse della società italiana tra Chiesa cattolica e fascismo, da un lato, e dall'altra dalla riproposizione dell'idea che le diverse correnti nelle quali si è diviso il movimento cattolico sono in realtà tra loro complementari e in definitiva rappresentano aspetti secondari, sovrastrutturali rispetto a quello che è il nucleo forte del movimento cattolico stesso. Affermazioni di questo genere, che sono certamente le punte, direi, estreme posizioni che tuttavia mi sembra poter dire abbastanza diffuse, ne si ritrovano, mi permetto di indicarlo, in una rassegna di studi sul movimento cattolico pubblicata da Quaderni Storici, questa rivista di Ancona, che è stata coordinata da Guido Verucci. Faccio riferimento in particolare al saggio su movimento cattolico e o questione democristiana della signora o signorina, non so il suo stato civile, Luisa Mangoni. Quando? Dunque, deve essere 74, numero 26 di Quaderni Storici. Numero 26 di Quaderni Storici. Luisa Mangoni, il titolo è Questione Democristiana. Non è un libro, è una rivista. Scusa, non confondere Quaderni Storici. Lo so, è una rivista però che ha un fascicoli monografici. È una rivista a fascicoli monografici. Questo è dedicato a ceti, ordini, istituzioni. Però ogni numero contiene anche degli aggiornamenti bibliografici, e questo numero contiene aggiornamenti su aggiornamenti, note sulla Chiesa e il movimento cattolico. A cui farò del resto ancora riferimento. Ora, mi sembra che al limite le conseguenze più estreme, vero, di queste tendenze possono essere, non dico che siano sempre, ma la linea di tendenza minaccia di essere, forse, in conseguenza di questa estensione, di questa applicazione, direi indiscriminata, della categoria del clerico moderatismo agli intransigenti e clerico moderati propriamente detti, al Partito Popolare e alla maggior parte delle forze cattoliche in epoca fascista, infine alla Democrazia Cristiana, possa rappresentare la sostanziale vanificazione di alcuni problemi che erano propri anche della storiografia marxista. E che indicherei tre problemi che rischiano, se questa tendenza, vero, venisse spinta alle sue ultime conseguenze, non dico che questa venga fatta, ma rischiano di venire vanificati come problemi storici. Potrebbe anche essere un vantaggio, perché così finalmente cambiamo così i nostri interessi e ci mettiamo a studiare altro. Il problema della riunificazione della classe borghese in Italia, che era uno dei pilastri delle grandi questioni intorno alla quale la storiografia marxista si è dibattuta. Ricordo per esempio il ben noto articolo di Togliatti dopo il concordato, che indicava nel concordato del 29 il momento della riunificazione della borghesia italiana. Evidentemente il fenomeno poteva anche essere antidatato, riportarci al Partito Popolare, se vogliamo, al clerico moderatismo propriamente detto dell'età giolittiana, ma nel caso, secondo questa linea di tendenza, in realtà, come accennava già Fonzi ieri, il problema minaccia di non porsi nemmeno più. Seconda questione, che mi pare tendenzialmente si possa dissolvere, è quello del significato dialettico delle forze politiche organizzative rispetto alla struttura economica. Intendo dire cioè che è rilevante, però, la tendenza a sottovalutare del tutto o quasi del tutto i modi in cui politicamente si è espressa il blocco borghese, se vogliamo usare questo termine, in Italia. Cioè le eventuali differenze tra i patti clerico-moderati e il Partito Popolare, o tra il Partito Popolare e la Democrazia Cristiana, finiscono per risultare poco o del tutto irrilevanti. Questa indifferenza per i mezzi politici, che viene in generale espressa dicendo che cambiavano i mezzi, ma restava fermo il fine della dominazione borghese, che era evidentemente quello di consolidare in Italia i modi appunto di presa sulla società italiana. Ora, questo discorso più volte proposto sulla distinzione tra i mezzi e i fini, per quanto riguarda la lotta politica, dico, mi trova fortemente critico, perché io sono convinto che nella storia sono soprattutto i mezzi che contano, sono i mezzi che incidono sui fini, vero? E che facendo storia dei mezzi, cioè ad esempio delle forme organizzative, dei modi, vero, di esprimersi politicamente, però si condizionano e si modificano anche i fini. Terzo punto, che potrebbe essere l'estremo, vero, è potrebbe essere la vanificazione non soltanto, come diceva Fonsi, del movimento intransigente, però, e che giustamente lo preoccupava, essendo lui un notissimo studioso del movimento intransigente, ma direi la vanificazione del concetto stesso di movimento cattolico, perché nel momento in cui la faccia transigente e quella intransigente sono riconosciute come due espressioni relativamente poco importanti, insomma poco rilevanti, della stessa realtà, vero? E nel momento in cui in realtà il movimento cattolico è studiato in quanto partecipe a pieno titolo del blocco borghese, in realtà ciò che interessa è questo blocco borghese, che poi si chiami movimento cattolico, transigenti, intransigenti, liberali moderati, liberali sinistra, eccetera, potrebbe risultare del tutto secondario. Sono, se vogliamo, affermazioni un po' paradossali che mi permetto di fare, ma che credo valga la pena di sottoporre alla vostra attenzione. Passando al secondo punto, dopo queste osservazioni di carattere generale, io credo che occorre effettivamente cercare di stringere il tema più da vicino, e che sia necessario chiederci chi furono i clerico moderati. Ora, non so se è mai stata fatta una indagine sull'origine del termine, tuttavia mi pare di poter dire che, anche se non inventato, certamente il termine è stato diffuso con significato essenzialmente negativo e spregiativo dagli avversari dei clerico moderati e soprattutto da quegli elementi, da quei gruppi del movimento cattolico che non si riconoscevano nel clerico moderatismo. Ritrovo soprattutto la polemica anticlerico moderata, per esempio nelle riviste Muriane, il Clerico Moderatume, eccetera. Qui gradirei molto che qualcuno degli illustri studiosi del movimento cattolico qui presenti intervenissero, ma credo che un'indagine sull'uso del termine, sulla nascita e sull'uso del termine, potrebbe rivelare cose interessanti. Se quindi la diffusione del termine clerico moderato va riportata prevalentemente, anche se non esclusivamente, all'interno del mondo cattolico, per quanto riguarda la datazione, mi sembra che l'uso sia limitato sostanzialmente agli ultimissimi anni dell'Ottocento, ma forse nemmeno credo sia necessario arrivare per trovarlo come termine consolidato del dibattito politico nell'età giulittiana o comunque nel Novecento. L'uso che è stato fatto di questo termine da parte della storiografia però risulta abbastanza presto improprio. Se per esempio andiamo a torniamo a scorrere la nota opera di Candeloro sul movimento cattolico, Giorgio Candeloro, il movimento cattolico in Italia, che è stata pubblicata in una prima edizione nel 1953, vediamo che a un certo punto Candeloro dedica un capitolo intitolando Cattolici liberali, clericali intransigenti e clerico moderati nel decennio 1860-1870. Cioè Candeloro pensa che i clerico moderati già, si possa già parlare di clerico moderati nel 1860-70. Se poi andiamo a vedere chi sono questi clerici, quelli che Candeloro definisce clerico moderati, distinguendoli, come vedete già nel titolo, dai cattolici liberali e dai clericali intransigenti, vediamo che si tratta in gran parte di quelli che poi sono stati chiamati transigenti o che contemporaneamente erano chiamati transigenti, per esempio ancora da Folzi, e particolarmente Candeloro si riferisce ai cosiddetti conservatori nazionali, cioè considera, definisce clerico moderati il prodotto di una involuzione conservatrice dei cattolici liberali. Sono i clerico moderati, per Candeloro, sono la brutta copia, la copia conservatrice, politicamente, socialmente più conservatrice, dei cattolici liberali. Ora, questa definizione di clerico moderati, questo riferimento, ovvero del termine clerico moderati, a queste tendenze presenti nel movimento cattolico, che quindi non si potrebbero identificare né con il cattolicesimo liberale propriamente detto, il quale però si estingue abbastanza presto, però, né con il movimento intransigente, ha avuto notevole fortuna nella storiografia marxista anche recente. Per esempio, in quel saggio di Franzina, che è stato raccolto in quel volume che, dei Padovani, come li ha chiamati Folzi ieri, i clerico moderati sono tout court i conciliatoristi o transigenti. Ora, già in questo uso del termine clerico moderati per indicare questi gruppi, mi pare esserci nascosta un possibile fraintendimento. Mi sembra cioè che sia fuorviante definire clerico moderati questi gruppi, almeno in alcuni casi, ma io direi in molti casi, per il fatto che molti di loro erano certamente e duramente conservatori, erano certamente moderati, anzi moderatissimi sul piano sociale, ma non erano poi clericali, non erano molto clericali. Alcuni di loro poi non erano clericali affatto. Penso per esempio a Jacinto. Quindi, se le parole hanno un senso, questi uomini si possono chiamarli in molti modi, ma non mi sembra si adatti a loro il termine, la definizione di clerico moderatismo. Si fa insomma sempre più pressante la necessità di usare il termine nel suo contesto preciso. E questo contesto preciso è al momento della dissoluzione dei gruppi transigenti e intransigenti, ed è il generale rimescolamento delle carte, sia sul piano politico-sociale, sia delle trasformazioni economiche, della svolta di fine secolo. Devo dire che questa confusione, insomma questo uso che io personalmente considero improprio del termine clerico moderato, non è soltanto una questione terminologica, evidentemente, questo uso improprio, vero, non è condiviso da tutti. Per esempio, Mario Girossi, nel ormai famoso articolo di cui già ci siamo occupati, è più preciso di molti altri, sia pur con qualche ondeggiamento che si può cogliere nelle sue pagine, ma parla in realtà di intransigenti divenuti clerico moderati per la paura della rivoluzione sociale, per esempio a pagina 254 del suo saggio sul movimento cattolico e capitale finanziario. e parla altresì di nuovo blocco storico delle classi dominanti. Ora, l'uso di questo termine, nuovo blocco storico, indica, vero, che Rossi perlomeno si muova in una direzione alquanto diversa, relativamente diversa, rispetto a coloro che in realtà ritengono che sia un blocco storico persistente. È vero però, per quanto riguarda ancora il saggio di Rossi, che puntando coerentemente non tanto sulla componente politico-sociale della svolta del 98, quanto sul cementarsi del blocco storico dominante industriale agrario intorno al protezionismo, e cioè al 1887, che è per questa produzione storiografica sempre ripresentato come il punto centrale in cui incomincia, in cui si fa più rilevante la saldatura però tra borghesia cattolica e borghesia non cattolica in Italia, il Rossi finisca poi per retrodatare ancora una volta, sia pure con qualche cautela, il fenomeno del clerico moderatismo. Cioè si nota questa oscillazione per cui in realtà i clerico moderati sono gli intransigenti, come dicevo prima, che si sono convertiti al clerico moderatismo per la paura della rivoluzione sociale, però quindi si ritiene tra il 90, ammettiamo pure che la rivoluzione sociale siano i fasci siciliani, e quindi il 94 e comunque il 98, e poi invece il fenomeno viene retrodatato perché il punto di svolta è la configurazione del blocco sul piano economico, però del blocco protezionista. E mi par strano a questo punto di vista che si scelga sempre il blocco protezionista e l'adozione del protezionismo e non si periodizzi secondo la svolta del ciclo economico che mi pare che in Italia avvenga alcuni anni dopo. Ciò detto e fatto questi rilievi, mi sentirei però di aggiungere qualche altra cosa sullo scritto, sulle tesi di Rossi, anche perché ho la fortuna, data la sua gentilezza, desidero qui ringraziarlo, di avere sott'occhio e di avere letto, naturalmente, un'edizione provvisoria di quella che dovrebbe essere l'opera, vero, il volume di Rossi stesso, e che ha come titolo, non so se anche esso provvisorio, in Italia si fanno molte cose provvisorie, un movimento cattolico e classe operaia nella crisi del sistema giolittiano. Uscirà, mi dicono, tra poco, da Editori Riuniti. Movimento cattolico e classe operaia nella crisi del sistema giolittiano. Ritorno, oltre che perché dispongo di questo materiale semi inedito, clandestino, che ci permette forse di vedere qualcosa di più rispetto a queste prime indicazioni dell'articolo che abbiamo ormai sviscerato in tutte le sue righe quasi, anche perché mi permetterei di aggiungere qualcosa rispetto alle osservazioni che a proposito di quest'opera, che ripeto si colloca in una posizione un pochino, mi sembra, particolare rispetto alle altre tendenze più radicali che ho le cui premesse brevemente analizzato prima, però, anche perché in questo avrei da fare due osservazioni che mi sembra sono state trascurate dalla presentazione che ne ha fatto Fonzi e che invece mi sembrano cruciali anche alla luce del successivo volume. Il primo punto riguarda il fatto che Rossi insiste certamente sulla affermazione che la preparazione, la genesi, come dice lui, del blocco clerico moderato deve essere riportata essenzialmente a motivazioni economiche, e cioè alla formazione di questo nuovo blocco storico borghese che ha nel protezionismo il suo momento di slancio. E quindi l'analisi, secondo Rossi, deve essere riportata dalle vicende politiche, ideologiche, culturali, religiose del movimento cattolico, deve essere riportata in prima istanza all'analisi della formazione di questo blocco storico e quindi della compenetrazione della borghesia cattolica con la borghesia laica in Italia. Ma in Rossi non c'è soltanto questo, vi è un'altra affermazione, e cioè che nel nuovo blocco storico borghese che si viene formando dopo l'87 e in conseguenza, in certo modo, l'87, il movimento cattolico e la sua rete di organizzazioni economiche e sociali è strettamente funzionale al tipo di sviluppo capitalistico italiano che ne viene, per così dire, marcato. Non si ha soltanto una compenetrazione di interessi tra la borghesia cattolica e la borghesia liberale, ma si ha una maggior presa, una capacità di condizionamento del movimento cattolico, tanto più in Italia, sullo sviluppo capitalistico, tanto più rilevante in quanto quel tipo di sviluppo capitalistico si presta particolarmente, però, alle caratteristiche che aveva assunto in Italia il movimento cattolico. Da un lato, cito a pagina 262 dell'articolo di Rossi, i capitali di parte cattolica, anche nelle zone di più antica e dominante presenza, si collegano con il complesso degli interessi capitalistici, realizzando intese e fusioni nelle società industriali e finanziarie e sopperendo sempre più largamente al fabbisogno di un'industria in fase di rapido decollo. Dall'altro, le masse proletarie dirette dai cattolici, coincidenti in massima parte con i contadini poveri dell'Italia settentrionale, diventano una componente essenziale di un modello di industrializzazione che punta a recuperare il ritardo accumulato nei confronti dei paesi capitalistici più avanzati, anziché attraverso la concentrazione dell'apparato produttivo mediante il suo decentramento nelle campagne e la conseguente utilizzazione di una manodopera a basso costo e priva di qualificazione. Qui si riferisce soprattutto poi, come risulta anche nel volume, all'industria tessile, in larga misura femminile e minorile, senza tradizioni di lotta, formatasi nella dispersione e nell'isolamento, di cui tende a preservare un parziale legame con la terra come forma di integrazione salariale e quindi di contenimento delle rivendicazioni economiche e come valvola di sicurezza in caso di recessione. Nei confronti di questa manodopera disgregata e spoliticizzata e del mondo contadino da cui essa proviene e a cui rimane strettamente legata, il movimento cattolico svolge la propria funzione egemonica, sia sotto il profilo della creazione di istituzioni cooperative, mutualistiche e assistenziali che traducono in pratica il suo paternalismo caritativo, sia dal punto di vista della direzione ideologica poggiante su concezioni ruralistiche e sottoconsumistiche, organicamente funzionali al modello arretrato della industrializzazione italiana. L'esaltazione della piccola proprietà, l'incoraggiamento offerto alle aspirazioni verso la sua conquista da parte dei lavoratori poveri, le iniziative promosse per assicurarne la sopravvivenza e tutelarne i proventi, in particolare attraverso l'organizzazione del credito agrario e il collocamento fruttifero dei risparmi, costituiscono un solido terreno su cui l'ideologia e la prassi del movimento cattolico si saldano con le esigenze di uno sviluppo industriale impostato nella specifica situazione italiana su una stretta connessione con l'agricoltura arretrata del paese. Ora, questo mi pare l'aspetto effettivamente nuovo, insomma, in un certo modo più originale di Rossi, vale a dire ho cercato di individuare, la discussione evidentemente è aperta, io credo, il fatto che non si tratta semplicemente, di un incontro di interessi, ma di un condizionamento reciproco, potremmo dire dialettico, tra movimento cattolico e tipo di sviluppo capitalistico. Sicché il discorso si sposta poi in realtà sulla bontà che Rossi, dell'analisi che Rossi fa di questo tipo di sviluppo capitalistico, su cui d'altra parte la letteratura ormai è ampia e, come è ovvio ed evidente a tutti, supera abbondantemente la tematica relativa al movimento cattolico. Il secondo punto, che è del resto la conseguenza del primo, è che il Rossi, specialmente nel volume che ho sotto mano, non trascura affatto lo sforzo organizzativo e sociale, diciamo così, dei cattolici, specie in epoca giolittiana, ed è, mi pare indicativo che il volume piuttosto del saggio si riferisca all'epoca giolittiana, ma tende a dimostrare, e a mio avviso in molti casi ci riesce, che il sindacalismo cattolico, per esempio, si pone oggettivamente in posizione subalterna rispetto agli interessi del capitale e lo serve. Ci sono delle pagine di Rossi sul tipo, non solo sugli aspetti, l'ispirazione ideologica del movimento sindacale cattolico, ma sulle sue caratteristiche, sulla sua composizione di classi, sui suoi comportamenti, eccetera, e certi collegamenti attraverso, per esempio, la figura di Valente, che era stato per un certo numero di anni in Germania, però, tra il modello tra il modello di organizzazione sindacale cattolica tedesca e italiana, che viene essenzialmente definita in questo senso, cioè di farsi egemonizzare, vero, dagli interessi del capitalismo, che certamente mi sembra meritino attenzione. Rossi in sostanza disegna, o cerca di disegnare nel suo volume, una mappa dell'organizzazione bancaria e della sua evoluzione e della intersezione di interessi economici e imprenditoriali in Italia, che nel complesso mi sembra solida. Naturalmente l'elemento centrale di questa ricostruzione è la funzione del capitale finanziario, le sue capacità di riconversioni, la sua presenza e i suoi movimenti. Specialmente, ripeto, questo applicato all'età giolittiana. Da qui si apre naturalmente il discorso relativo al Banco di Roma, alla funzione del Banco di Roma, alla sua incidenza per esempio sulla scelta coloniale della guerra libica, sullo sviluppo del nazionalismo cattolico e infine sulla formazione del blocco salandrino, cioè la sostituzione, l'abbattimento vero, di Giolitti da parte delle forze più conservatrici, sia liberali sia cattoliche. Lo stesso sforzo di ricostruzione, così più possibile completa, però, delle organizzazioni Rossi compie per quanto riguarda le organizzazioni di tipo sindacale, sempre in epoca giolittiana, così dimostrando come effettivamente ci siano una certa diminuzione di presa da parte dei sindacati cattolici sugli strati propriamente operai, come l'organizzazione di massa finisca per incidere soprattutto sui ceti piccoli borghesi, e così indicando, sottolineando gli aspetti appunto sostanzialmente moderati nell'ambito a livello ideologico di alcuni di questi organizzatori, e ripeto, essenzialmente Valente. In sostanza, quindi, il movimento cattolico, non nella sua totalità, il movimento sindacale cattolico, non nella sua totalità, ma certo nel suo cuore, lasciando fuori alcune frange, per esempio quella di Miglioli, è tale da prestarsi oggettivamente ad un'egemonia moderata, è presente idee di sindacalismo nazionale e sostanzialmente corporativo, che sono idee che nella stessa epoca vengono presentate, programmi, idee che vengono presentate e che sono i punti di forza del movimento nazionalista. Naturalmente Rossi non parte da zero. Intendo dire che anche questo libro di Rossi, a parte le sue ricerche personali, si è costruito usufruendo di una fioritura di studi di taglio regionale o locale in età giolittiana, che in modo più o meno esplicito tuttavia accettano o si rifanno a questo stesso tipo di preoccupazione, direi, e di metodologia storica. Ne ricorderò soltanto alcuni e mi soffermerò in particolare su uno. Per esempio, ci sono stati, sono già usciti, sono stati pubblicati gli studi di Salvadori, Massimo Salvadori, e di Falco, di Salvadori sul Movimento Cattolico a Torino e di Falco sull'Organizzazione Bancaria Cattolica in Piemonte. Per esempio è uscito lo studio di Ballini sulla Toscana, mentre più scarsi mi sembra sono i contributi che si sono mossi in questa direzione sulla Lombardia e sull'Emilia. Per altro verso, ma con un'accentuazione maggiore e con certi scarti che sono già stati rilevati da Fonzi, prendono spunto dalle posizioni di Rossi e le applicano, ripeto, in modo più radicale, più drastico, il gruppo che si è raccolto in quel convegno padovano su movimento cattolico e sviluppo capitalistico nel Veneto, per i quali la categoria clerico-moderatismo ritorna ad essere assunta nell'accezione di Candeloro, tanto per intendere, cioè i clerico-moderati sono già riscontrabili, si possono già chiamare clerico-moderati fin dal 60-70, con la differenza sostanziale che mentre Candeloro ne dà un'accettazione essenzialmente ideologica, come dicevo prima, o perlomeno ideologico-politica, sono poi conservatori nazionali, per questi giovani autori i clerici moderati sono in realtà quelli che controllano, che sono i proprietari terrieri, che incominciano a fare i finanzieri e quindi rappresentano il momento del potere economico. Mi soffermerei in particolare e molto brevemente sul saggio di Salvadori, che è uscito prima di Massimo Salvadori sul Movimento Cattolico a Torino, che è uscito prima di questi saggi che ho citato ora, e dello stesso ricerca di Rossi, saggio che si trova molto lodato in genere dalla storiografia marxista, per esempio da Giovannini in quel suo intervento a proposito dell'articolo di Rossi, e ancora e più diffusamente nel contributo dello stesso Giovannini, Claudio Giovannini, a quella rassegna sul movimento cattolico che è stata pubblicata, come ho già detto, su Quaderni Storici. Il contributo di Giovannini all'interno di questa rassegna a più voci riguarda appunto il clerico, i recenti studi sul clerico moderatismo. Schematicamente la tesi di Salvadori a proposito del movimento cattolico torinese potrebbe essere definita come la tesi di Fonzi, da me in precedenza ricordata e presentata attraverso quelle pagine del suo volume su Crispi, lo Stato di Milano, ma rovesciata. Intendo dire, cioè, che anche Salvatori si dimostra convintissimo che i cattolici rappresentino, persino in una società in rapido processo di industrializzazione come Torino, l'unico partito capace di reggere il confronto con il Partito Socialista, e che quindi la funzione dell'alleanza e dei contratti clerico moderati per quanto riguarda i cattolici è quello di preparare la loro presa del potere, di contribuire a farne una forza alternativa, una classe politica alternativa rispetto a quella liberale, con la piena consapevolezza di operare in questa direzione alternativa. In sostanza, i cattolici rappresentano per Salvatori a Torino il partito che si oppone più in grado di opporsi, l'unico in grado di opporsi veramente al Partito Socialista, e che pone però fine dall'età, dal periodo giulittiano, attraverso i patti clerico moderati, la propria candidatura alla direzione della cosa pubblica in Piemonte, a Torino naturalmente, e nella prospettiva allo Stato, nello Stato italiano. E che contribuiscono, ecco, naturalmente la differenza, dicevo, che in un certo modo, non so se Fonzi è d'accordo, in un certo modo la tesi di Fonzi rovesciata, è che in Fonzi questi patti di clerico moderanti sono hanno sì una funzione antisocialista, ma anche di differenziazione, di alternativa nei riguardi del Partito Liberale, ma in funzione progressista, cioè rappresentano il mezzo, lo strumento attraverso cui le masse cattoliche vengono inserite nella vita dello Stato, ovvero quindi esercitano una funzione obiettivamente democratica, usiamo questo termine per abbreviare, mentre per Salvatori è tutto il contrario, cioè in un certo modo dal confronto tra questo nuovo partito emergente dei cattolici e il vecchio Partito Liberale, però risulta che questo nuovo partito, che sicuramente è emergente, che sicuramente avrà la vittoria e che tra l'altro ha una consapevolezza dei propri fini infinitamente superiore a quella dei liberali, questo secondo partito, dico, è però peggiore, usiamo questo termine, cioè è molto più conservatore che non gli stessi liberali. E questo naturalmente risulta, o viene fatto risultare, con un confronto essenzialmente con i giolittiani. Quindi nell'opera di Fonzi c'è questa singolare, o non tanto singolare, mescolanza tra un'ammirazione sconfinata per la complessità organizzativa del movimento cattolico, di tutte le sue reti, di tutte le sue strutture, si potrebbe dire con una battuta, che portano l'uomo... Chiedo scusa. Anche in Fonzi c'è questa ammirazione sconfinata. Allora, invece in Salvatori c'è effettivamente questa ammirazione sconfinata. Direi che portano l'uomo dalla culla alla tomba, no, veramente, lo seguono in tutte le sue manifestazioni, in tutti i suoi momenti, in cui veramente c'è sempre un prete o comunque una piccola cellula organizzativa nella quale questo uomo è inserito, di tutti gli strumenti di indottrinamento, eccetera, di cui il mondo cattolico piemontese è dotato, e nello stesso tempo la convinzione profonda che tutto questo sia in realtà costruito in senso antisocialista. La conseguenza è che non è Giolitti il clerico moderatismo, significa in sostanza che non è Giolitti a catturare i cattolici, ma viceversa. Ora, alle posizioni, così, indicazioni che ci vengono da questo volume certamente solido di Salvatori, che rappresenta un po' un momento tipico, perché più di altri, valuta il significato, ritorna, direi in un certo modo, ad una strategia politica, pur senza trascurare il momento economico, ma in fondo è un volume di storia politica e sociale, vero, di Salvatori, farei alcune osservazioni. Cioè che intanto Salvatori limita i propri interessi ad alcuni anni di storia del movimento cattolico piemontese notevolmente limitati. Ora, questa limitatezza presenta dei vantaggi da un certo punto di vista, perché evita a Salvadori quelle applicazioni indiscriminate di categorie storiche fuori dal loro tempo, che dal mio punto di vista è sempre deleterio. Presenta però anche dei limiti, perché certi fenomeni che a Salvadori appaiono del tutto originali e comunque dotati di un'incidenza particolare, in realtà hanno loro, per chi conosce la storia del movimento cattolico piemontese, per esempio, della fine dell'Ottocento, hanno radici più lontane e ben determinate. La seconda osservazione che farei è che il parallelo che sottostà sempre all'analisi di Salvadori tra il movimento cattolico e più in generale il mondo cattolico piemontese e il Partito Socialista rischia di essere fuorviante. La sensazione è che Salvadori giudichi l'organizzazione cattolica con gli stessi criteri con cui giudica l'organizzazione socialista, e infatti a un certo punto lo dice anche, cito di seconda mano dalla rassegna di Giovannini, ecco, Salvadori dice: Giovannini ha il merito di aver sottolineato che la parrocchia gioca un ruolo fondamentale nella vita sociale dei cattolici, e poi citando dall'opera di Salvadori, il parroco è l'intellettuale, per così dire organico, che fa da tramite principale fra le gerarchie cattoliche, ecclesiastiche e laiche, e la massa dei cattolici, che bisogna comportare... No, non è qua. Ecco qua. Dunque, se ci si fermasse qui, cioè alle organizzazioni sindacali in senso stretto, alle casse mutue, eccetera, non si capirebbe la reale forza dei cattolici in questa fase della nostra storia, perché, come sottolinea e documenta l'autore, la Lega del Lavoro, che era il centro, il nucleo organizzativo del sindacalismo cattolico a Torino, non agisce isolatamente, ma si collega all'insieme dell'organizzazione cattolica, e in particolare, e qui c'è la citazione di Salvadori, ad una imponente rete di circoli politico-religiosi che rappresentavano il contraltare delle sezioni socialiste e dal punto di vista formale non funzionavano in modo sostanzialmente diverso da queste. Ora risulta quindi che Salvadori, nello sforzo di inseguire, ripeto, pieno di ammirazione, questa capacità, questa penetrazione delle organizzazioni cattoliche, delle strutture organizzative del mondo cattolico, ovvero inseguendo questa tipo di struttura, finisca per superare il limite delle organizzazioni più tipicamente socio-economico e finisca per incontrarsi con le strutture ecclesiastiche, cioè con l'azione cattolica in primo luogo e con le strutture propriamente ecclesiastiche. Qui, secondo me, è l'elemento di maggior debolezza dell'analisi, perché nel momento in cui ci si incontra con questo tipo di strutture, non mi pare si possa fare a meno, ovvero, di considerarle in una dimensione che è, in un certo modo, la loro, e cioè nella dimensione, non si può, insomma, escludere del tutto di considerarle nella loro dimensione ecclesiastica. Non solo, ma in questo modo il fatto è anche positivo, intendiamoci, dimostra l'acutezza e l'intelligenza di Salvadori. In questo modo non è più tanto il movimento cattolico che viene analizzato, ma è la presenza politica, diciamo in senso lato, della Chiesa nella situazione piemontese. Per cui, però, la conseguenza potrebbe essere quella che non i cattolici, il movimento cattolico, i cattolici organizzati sono in realtà la forza alternativa, ma la Chiesa in un certo modo istituzionale, le strutture parrocchiali sono l'elemento, la struttura portante, e quindi allora bisognerebbe riportarci a questo tipo di indagine. Terzo punto, mi sembra che Salvadori sopravvaluti complessivamente la forza politica e soprattutto la consapevolezza di mete e di programmi di un mondo cattolico che secondo me travalica i limiti del movimento, per i motivi che ho detto, i limiti del movimento cattolico come movimento economico, sociale e politico, però, e coinvolge in realtà il mondo cattolico, la Chiesa in sostanza, io userei ormai questo termine, i cui così, scopi, le cui finalità, i cui programmi politici sono presentati da Salvatore con una, come se fossero talmente netti e precisi, mentre ad un'analisi più minuziosa non sembrano poi così evidenti. Certo è che uomini come il cardinale Alimonda sono il cardinale Richelmi, però sono uomini che hanno una notevole capacità di interpretazione della realtà che li circonda. L'opera di Salvatore comunque deve essere considerata, è dal mio punto di vista anche molto interessante e in un certo modo atipica rispetto alle altre che ho considerato, ripeto, perché ritorna aggiornandosi e facendo proprio alcune delle istanze che emergono da questa nuova ondata storiografica, però, ritorna però ad una considerazione del momento politico che non è certamente trascurato. E con questo sono arrivato all'ultimo rapidissimo punto che mi ero proposto di affrontare. Vi chiedo di avere ancora 5 minuti di pazienza, è il più veloce, spero. Alcune ulteriori osservazioni e commenti, se mi permettete, così molto amichevolmente, che mi permetterei di fare ritornando a quella che comunque lo si voglia giudicare è l'opera che ha dato un po' il tono, perlomeno per un quarto riguardo un certo settore di indagine, alla storiografia sul movimento cattolico e particolarmente sui clerico moderati, e cioè alle osservazioni di Rossi, che permettono a questo punto, ed è il motivo per cui l'ho lasciato alla fine, di anziché di chiudere il discorso, secondo me, di aprirlo ad una discussione. La prima osservazione che farei, che sottopongo alla vostra discussione, è questa. Ammesso che effettivamente il modello di sviluppo, se vogliamo usare questo termine, il tipo di industrializzazione dell'Italia sia effettivamente omogenea alle caratteristiche economico-sociali del movimento cattolico di fine secolo e dell'età giolittiana, e viceversa che questo movimento condizioni in un certo modo anche il tipo dello sviluppo, a me sembra che assumere come categoria di giudizio la costituzione di un nuovo blocco storico borghese rischi di spiegare, in un certo modo rischi di spiegare troppo. Intendo dire che sembrerebbe necessario a questo punto distinguere all'interno di questa presenza caratterizzante e massiccia del movimento cattolico, all'interno di questo, dentro questo blocco storico, perché non mi pare che si debba aprioristicamente affermare che la partecipazione del mondo cattolico, anzi del movimento, dell'organizzazione cattolico allo sviluppo capitalistico italiano sia di per sé un male. Non mi sembra di poter condividere l'idea, vero, che la, così, il momento di accordo e di compenetrazione, vero, tra il capitalismo, la borghesia capitalistica cattolica e, e quella liberale, rappresenti di per sé un male, a meno di non voler essere in questo caso manichei, ma di così imporre alla realtà storica giudizi che sono di altra natura. In questo senso mi sembra che non si sia dedicata sufficiente attenzione a quello che probabilmente il simbolo, la figura più significativa, però, di un certo tentativo di sviluppo del capitalismo italiano, le cui valenze progressiste sono riconosciute ormai anche da storici, sono state riconosciute, non ormai, sono state riconosciute da tempo anche dalla storiografia marxista, e intendo riferirmi a Giolitti. Giolitti e il giolittismo rappresenta certamente la figura cruciale, sicché a mio modo di vedere bisogna reintrodurre all'interno di questa categoria di blocco, di nuovo blocco storico borghese, almeno una sottodistinzione tra ciò che di questo blocco storico si riconosce in Giolitti, quanto c'è di giolittiano, diciamo così, di questo blocco storico, e ciò che quanto di questo blocco storico non si riconosce in Giolitti, assumendo quindi più decise, per esempio, più decise posizioni imperialistiche, conservatrici sul piano sociale, eccetera. Ecco, io credo che questa distinzione possa passare anche all'interno del mondo cattolico, anche della borghesia, anche all'interno della borghesia cattolica. Non mi risulta che un'indagine in questo senso sia stata fatta. Ma Giolitti, se non si fanno i conti con Giolitti e con l'alternativa giolittiana, rischiamo veramente di cadere in tautologie, come mi pare che in certa misura cada, vero, anche quel bravo giovane studioso il Levra, vero, quando parla del che ha pubblicato il libro già ricordato da Fonzi, e Fonzi ha ricordato veramente tutto, che è intitolato Il colpo di Stato della borghesia, e che è un libro estremamente serio, che analizza molto bene la svolta del 98 e che applica le categorie storiche, per esempio, del clerico moderatismo, nel senso che a me sembra più corretto, e cioè parlando di clerico moderatismo essenzialmente dopo e come conseguenza della svolta del 98, però, ma parla di colpo di Stato della borghesia come se il colpo di Stato veramente ci fosse stato. Ora, Giolitti, in realtà, lo sbocco, ovvero la vittoria di Giolitti, ha significato che la borghesia italiana il colpo di Stato non l'ha fatto, vero? Cioè, certamente nel 98 l'avrebbe fatto volentieri, ma ha prevalso la linea che possiamo definire di sinistra liberale riformatrice. Esattamente. Ora, come i cattolici giocano in questa vicenda? Se i cattolici giocano nel senso di sostenere l'alternativa giolittiana, mi sembra che giochino nel senso di sostenere l'alternativa, probabilmente l'alternativa più progressista che in quel momento era ipotizzata. E quindi possiamo chiederci veramente: tutti i cattolici sono antigiolittiani, tutti si convertono al nazionalismo, tutto il movimento cattolico, anche volendoci rifare alle sue strutture economiche, si riconosce nel blocco salandrino, eccetera. Non dico che questo problema sia risolto, potrebbe anche essere vero, ma sono queste, secondo me, a questo punto, le domande a cui gli storici devono dare delle risposte. E per quanto riguarda il secondo punto, la seconda osservazione, direi che in generale, vero, chi parla di un blocco storico borghese di cui i cattolici fanno parte come cosa dimostrata, mi pare che tenda involontariamente a sottovalutare le condizioni di reale arretratezza del mondo cattolico e non fa sufficientemente i conti con le resistenze che da parte della gerarchia ecclesiastica, della Santa Sede, di una buona parte della gerarchia ecclesiastica e in particolare della Santa Sede in epoca giolittiana, vengono contrapposte a questo tentativo, diciamo così, a questo accostamento alla borghesia liberale, che se vogliamo anche qui un po' paradossalmente poteva in ogni caso rappresentare un elemento di svegliamento ad una organizzazione sindacale. I pronunciamenti contro il modernismo, anzi contro i semi modernisti e modernizzanti che politicamente sono quelli più rilevanti, sono proprio nei riguardi di questi gruppi che cercano un'alleanza, un avvicinamento, un accostamento con la borghesia liberale. Quindi, se da un lato è giusto oggettivamente tenere gli occhi sui socialisti, sulle forze progressiste che operano in Italia, dall'altro credo, per così una accribia storica, occorre tenere presente anche tenere l'occhio sulle resistenze che ancora non erano affatto superate e vinte nel mondo cattolico a questo tipo di tendenza, di tendenza che in ultima istanza è modernizzatrice. Infine, e ultima questione che mi pare si saldi alle precedenti, ultima osservazione che mi pare si saldi alle precedenze, alle precedenti, quando richiamavo l'attenzione vostra sulla necessità di fare i conti su che cosa l'alternativa giolittiana ha rappresentato, per esempio, rispetto alle prospettive novantottesche, richiamo implicitamente anche l'attenzione sulla necessità, sull'esigenza di collegare allora la storia del movimento cattolico alle altre storie di forze, delle forze, dei ceti subalterni. E mi riferisco evidentemente in particolare al socialismo italiano. In altre parole, io credo che lo storico debba sempre partire, non giustificare a priori la realtà, ma debba in ogni caso considerare le alternative reali e esistenti. Ora, le alternative rappresentate dal socialismo italiano in epoca giolittiana, vero, non sono così evidenti, nitide, non hanno così questa potenzialità vincente, però come certa storiografia sembrerebbe ritenere. Anche qui la figura, l'elemento di discussione e di coagulo centrale è rappresentato da Giolitti, cioè, così come non è possibile, a mio modo di vedere, considerare la storia del clerico moderatismo senza vedere come si colloca nella tattica e nella strategia giolittiana, altrettanto, vero, questo deve essere, dovrebbe essere compiuto per quanto riguarda il socialismo italiano nelle sue diverse anime, nelle sue diverse tendenze. Grazie. Daniele hat den Lehrstuhl für Storia della Chiesa, also für Kirchengeschichte, an der Fakultät die Scienze Politiche der Universität Turin. Er hat sein Referat über die neuen Aspekte des Clericomoderatismo. Ich möchte gleich sagen, dass ich diesen Ausdruck Klerikomoderatismo nicht ins Deutsche übersetzen werde, weil man es nicht ins Deutsche übersetzen kann. Ich will es nur kurz am Anfang erklären. Klerikomoderatismo ist eben eine spezifische Bezeichnung für jene Katholiken, die zu Beginn des Jahrhunderts mit den Nationalliberalen eine gewisse Interessengemeinschaft, ein taktisches Bündnis eingegangen sind. Moderatismo entspricht dem, was man im Deutschen ungefähr die Nationalliberalen nennt. Also der Ausdruck hat von Anfang an eine etwas negative, abwertende Bezeichnung gegenüber dem revolutionären, demokratischen, mazzinianischen Risorgimento. Die Moderati sind im Wesentlichen die Leute gewesen, die nach dem Scheitern der verschiedenen Versuche der Giovane Italia eben den Weg der, man könnte sagen, der Realpolitik auch des italienischen Risorgimento eingeschlagen haben, die soziale Struktur bewahren wollten, also der berühmte Principe di Salina in Gattopardo etwa, die nationale Einigung zwar befürworten, sie aber von den Fürsten aus durchführen lassen wollen, eben vom Haus Savoyen und so weiter. Das ist alles hier mit dem Begriff Moderato gemeint. Er wird hauptsächlich von den Gegnern Moderatismo, von den demokratischen Gegnern aus bezeichnet. Also man könnte es bezeichnen mit dem deutschen Wort nationalliberale, bürgerliche, liberale Bourgeoisie und so weiter. Alles das ist hier in diesem Wort Moderatismo enthalten. Aber wenn man sagt, Klerico Moderatismo, wenn man es übersetzt mit katholischem Liberalismus, ist das natürlich ganz etwas anderes. Es ist klerikal. Es ist nicht der Klerus gemeint. Es sind also hier nicht die Geistlichen gemeint, sondern es sind die Katholiken, Klerikalen und Katholiken gemeint, die mit dem bestehenden Staat, sich in diesen bestehenden Staat integrieren, ihn akzeptieren. Nun, Herr Traniello hat am Anfang gesagt, dass sein Referat nur eine Erweiterung, eine Fortführung dessen ist, was Herr Ponzi schon gesagt hat. Er geht hier auch zunächst auf jene neuen Tendenzen ein, die Herr Ponzi als die neomarxistischen bezeichnet hat und die, wie Herr Traniello sagt, den Klerikomoderatismo geradezu in einer fanatischen Weise, obsessiver Weise, einer übertriebenen Weise nun in den Mittelpunkt der gesamten neueren italienischen Geschichte sehen. Ferner dann will er versuchen, dies zu definieren, was das ist, und die Vorteile, Nachteile, Grenzen dieser neuen Produktion untersuchen. Zunächst hat er darauf hingewiesen, dass diese neue, also diese sogenannte neue marxistischen Urteile zu erklären sind in dem besonderen politischen Klima und in Opposition zu dem, was Herr Ponzi und er selbst und was man heute gern die traditionelle Historiografie nennt, wobei diese traditionelle Historiografie, hier bin heute auch schon eine etwas ältere Generation, für uns war die traditionelle Historiografie die alte Risorgimento-Historiografie, während das, was hier als traditionelle Historiografie bezeichnet wird, ist eigentlich der Revisionismo Risorgimentale ist. Das heißt also jene Historiografie, die unmittelbar nach 1945 die alten Schulbuchschemen der Risorgimento-Geschichtsschreibung zu überwinden suchte, indem sie sich besonders mit der Integration gerade jener Gruppen, die aus der nationalen Einigung zunächst ausgeschlossen schienen oder die sich nicht an der nationalen Einigung beteiligt haben, das, was Gramsci eben die Ceti Subalterni nennt, und ihren politischen Kräfte sich beschäftigen, was natürlich auch mit der politischen Situation nach 1945 zusammenhängt, als gerade jene Kräfte, die nicht an der so aktiv und führend am Risorgimento an der nationalen Einigung beteiligt waren, nun die eigentlichen Träger des neuen Staates, der Republik, der Demokratie geworden sind, nämlich einerseits die katholische, andererseits eben die Arbeiterbewegung, die sozialistische Arbeiterbewegung in ihren verschiedenen Gruppierungen. Es ist hier, wenn ich das sagen darf, etwas, was er nicht gesagt hat, nur zur Erinnerung für die Deutschsprache, es ist eine ganz ähnliche Situation, wie sie sich 1918, 19 in Deutschland ergibt, wo die Reichsfeinde der Reichseinigung, nämlich Zentrum und Sozialdemokratie, die von Bismarck noch als die Reichsfeinde bezeichnet, oder in der frühen Bismarckzeit noch als Reichsfeinde empfunden worden sind und durch Kulturkampf und Sozialistengesetze bekämpft wurden, dann die Träger der Weimarer Republik geworden sind. Also diese Situation ist die Aufgabe der sogenannten traditionellen, dies zu erklären, ist die Aufgabe der traditionellen Historiografie gewesen, die zu erklären versucht, wie sich die Grundlage, die volksmäßige Basis des Nationalstaats erweitert hat, wie der alte liberale Staat, das Risorgimento, in den demokratischen Staat übergegangen ist, wobei man anknüpft an die Gedanken, wie sie etwa Gramsci in seinen Quaderni del Carcere vertreten hat, mit dem besonderen Hinweis auf etwa die Gruppen der Bauern, also des Landproletariats, müssen wir hier sagen, um keine Verwechslung aufkommen zu lassen, des Klerus, der Süd, also des italienischen Südens, vor allem, die nun auch in die soziale Basis des Nationalstaats, des traditionellen Nationalstaats eintreten. In dieser traditionellen Historiografie war die Analyse der Ethik, wie schon Herr Fonzi gesagt hat, der ethikopolitischen, also der Ideengeschichte, Ideologiegeschichte, politische Geschichte, stand im Vordergrund. Und der Klerikomoderatismus war daher ein spezifisches Moment in dieser Entwicklung der Eingliederung der Katholiken in den nationalen Staat, in der Entwicklung von der Enthaltung, von der Opposition gegen die nationale Einigung zum Sieg der Demokratia Christiana etwa 1948. Dabei wurde also natürlich auch besonderen Wert gelegt auf die Bedeutung, die dieser Klerikomoderatismus dann auch für die spätere Entwicklung oder Entstehung des Partito Popolare nach 1918 gehabt hat. Eben, wie gesagt, die Frage der Eingliederung der katholischen Massen in den Staat. Hier besonders verwiese auf das Buch von Herrn Fonzi, das sich mit Crispi und den Verhältnissen in Mailand, den Kommunalwahlen in Mailand beschäftigt hat, 1895, wo Fonzi darlegt, dass hier zwei Parteien, zwei durchaus verschiedene Gruppen, nämlich die Moderate, also die Liberalen auf der einen Seite, die Katholiken auf der anderen Seite, das gleiche Mittel, nämlich die Wahlen und eine gemeinsame Liste benutzen, um ihre Ziele jeweils durchzuführen und hier zu einem faktischen Bündnis gegen die antiklerikalen Demokraten kommen, womit Crispi auf lokaler Ebene das vollzogen hat, was Giolitti dann 1904 bis 1914 auf nationaler Ebene durchgeführt hat. Er weist hier schon darauf hin, worauf ja auch Herr Fonzi hingewiesen hat, dass die Opposition gegen diesen Klerikomoderatismus von Seiten der christlichen Demokraten eine der Wurzeln der Entstehung des Partito Popolare dann gewesen ist. Nun, die neuen neomarxistischen Tendenzen erwachsen in einem ganz anderen Klima, neben nicht in dem Klima der Neugründung der Republik durch christliche Demokratie und Sozialisten, sondern im Gegenteil im Klima der Krise der Demokratia Christiana unter dem Einfluss der Bewegung der neomarxistischen Strömung der Contestazione, auch der Krise des Centro Sinistra, der Unzufriedenheit oder wenn Sie so wollen, des Scheiterns einer sozialen Reformpolitik und einer Hinwendung zu revolutionären Einstellungen, wie das etwa auch in der Biografie von Salvemini von De Caro zum Ausdruck kommt. Dazu wirkt auf diese neuen Interpretationen auch die ganze Diskussion über die kapitalistische Entwicklung in Italien, also die Diskussion Romeo Gerschenkron und so weiter, Kritik oder Auseinandersetzung mit dem berühmten Tesi Gramsciane über die Bedeutung oder Fehlerentwicklung im italienischen Risorgimento, die unterbliebene soziale Revolution, die ganze Fragestellung über Entwicklung und Unterentwicklung Italiens. Dazu wirken auch hier ein die bekannten Thesen, also von Viktor den Lenin, über die Finanzkapital und seine Bedeutung für die Entstehung des Imperialismus. Und vor allem ist eines wichtig, dass für diese neomarxistische Interpretation die Polemik über den Faschismus, die große Faschismusdiskussion von Bedeutung ist, während die sogenannte traditionelle Historiografie den Faschismus sozusagen als eine nicht gerade Betriebsunfall, wie es ja in Deutschland einmal geheißen hat, sondern als eben eine abnormale Entwicklung, als eine Parenthese auszuklammern suchte und die Verbindungen zwischen vorfaschistischer Zeit und nachfaschistischer Zeit eben hier eine Kontinuität herzustellen suchte, sieht gerade die neomarxistische Interpretation im Faschismus, das Bindeglied zwischen dem Klerikomoderatismus, der ihrer Meinung nach auf das Konkordat von 1929 eben schon zuläuft, auf die Konziliation, und der späteren konservativen oder wir sagen mal reaktionären Politik der Demokratia Christiana. Sodass hier also der Faschismus hier eine völlig ungebrochene Kontinuität festgestellt wird. Hier spielt dann natürlich auch herein die Diskussion um die Thesen, die De Felice in seiner Faschismusarbeit und in seiner Mussolini-Biografie dargelegt hat, die Unterscheidung zwischen Faschismus als Bewegung, als einer linken Bewegung und als Regime, als ein rechtes, konservatives, sozialkonservativer Sieg. Und gerade in diesem Sieg des Regimes sieht man eine Nachwirkung des Clerico-Moderatismo. Nach dieser Auffassung der Neomarxisten sind dann alle anderen Strömungen innerhalb der katholischen Bewegung eigentlich bedeutungslos, denn der Klerikomoderatismus ist der bestimmende harte Kern. Das kommt etwa in verschiedenen Publikationen zum Ausdruck, wie etwa in diesen Sondernummer der Quaderni Storici, das sind die früher Quaderni Storici delle Marche geheißen haben. Nach dieser Auffassung werden einige Probleme, mit denen sich auch die ältere marxistische Historiografie beschäftigt hat, einfach als Scheinprobleme dargestellt. Zum Beispiel das von Togliatti noch behandelte Problem der Wiedervereinigung der italienischen Bourgeoisie nach der tiefen Kluft, die die römische Frage bzw. das Risorgimento aufgerufen hat. Das ist nach dieser Auffassung eigentlich ganz bedeutungslos, weil es ja eben diese Einheit, diesen Clerico-Moderatismo als das bestimmende Element gegeben hat. Außerdem wird vernachlässigt die dialektische Bedeutung von Politik und Wirtschaft, weil die Politik überhaupt nur mehr als eine ein Schattenspiel vor der entscheidenden Wirtschaft dargestellt wird. Es wird hiermit die gesamte ethisch-politische Geschichte, überhaupt die politische Geschichte, erscheint als irrelevant, die politischen Mittel erscheinen als irrelevant, es gibt überhaupt keine Unterscheidung mehr zwischen Zielen und Mitteln. Hier bekennt sich Herr Traniello dazu, dass die Geschichte der Mittel, also der politischen Formen, der politischen Kampfformen und so weiter, auch von größter Bedeutung ist. Etwas anderes, was aufgelöst wird, ist, das Frau hat ja auch schon Herr Fonzi hingewiesen, ist überhaupt der Begriff der Intransigenten, weil schließlich sogar der Begriff überhaupt einer katholischen Bewegung, ein Movimento Cattolico, gibt es dann eigentlich gar nicht, denn es ist ja nur ein Teil oder eine Scheinbezeichnung im Blocco Borghese. Darf ich hier auch wieder eine Randbemerkung machen? Es ist im Grunde genommen das, was die Theorie, die Lassalle als die Theorie der reaktionären Masse bezeichnet hat, die hier wieder ihre Auferstehung erleben. Nun, was ist dieser, wirklich dieser Clerico-Moderatismo? Das Wort ist, wie Herr Tranjeno sagt, eigentlich von den Gegnern, und zwar interessanterweise von den katholischen Gegnern, von den katholischen Demokraten erfunden worden. Es taucht auch in den Zeitungen, in den Zeitschriften von Murri, hier als Schimpfwort Clerico-Moderatume, und wird hier also sozusagen auf die Verräter einer genuin katholischen, sozialen und antiliberalen intransigenten Haltung bezeichnet. Das ist eigentlich ein Vorwurf des Verrates. Diesen Ausdruck in sehr weiten Sinn hat schon Giorgio Candeloro in seinem schon gestern erwähnten Buch, also der marxistische Historiker Giorgio Candeloro, in seinem Buch über Il Movimento Cattolico in Italia von 1953, wobei er die Entstehung des Clerico-Moderatismo schon auf die Zeit von 1860 bis 70 festlegt und es vielfach eben mit den Transigenti. Das heißt, die Clerico-Moderati sind eben die, die den nationalen statt Transigenti, nicht Intransigenti, also die, wie man auch mit anderer Bezeichnung sagt, die liberalen Katholiken oder katholisch-liberalen, die diesen Nationalstaat, diesen italienischen Nationalstaat annehmen und Clerico Moderati auch zum Synonym für Conciliatoristi ist, also für diejenigen, die die Versöhnung zwischen Staat und Kirche, wie sie dann ja im Konkordat von 19 Lateranverträgen zum Ausdruck gekommen ist, schon damals anstreben. Es ist interessant, dass diese Verwendung des Begriffes auch bei dieser neuen paduanischen Gruppe verwendet wird, bei Franzina, darauf hat ja auch schon Herr Ponzi hingewiesen. Herr Tranjeno kritisiert diese Verwendung, weil er sagt, viele dieser Clerico-Moderati, viele der Katholiken, die den Nationalstaat akzeptierten, waren gewiss konservativ, aber sie waren nicht klerikal, also als Beispiel etwa Stefano Jaccini. Herr Tranjeno ist der Ansicht, man kann diese Verwendung eigentlich nur in einem ganz bestimmten Zeitpunkt, man kann diesen Begriff nur in einem ganz bestimmten Zeitpunkt anwenden, eben in der Zeit um 1900, als sich der Gegensatz zwischen Intransigenti und Transigenti auflöst. Er stimmt hier teilweise der Definierung von des schon oft erwähnten Mario G. Rossi zu, der sagt, die Intransigenti werden Clerico-Moderati aus Angst vor der Revolution. Es bildet sich ein neuer Block. Nun ist das allerdings das Problem, wann man das periodisieren soll. Wenn man es nur mit der Angst vor der Revolution definiert, kommt die Zeit zwischen den Fasci Siciliani und der starken Krise der Regierung, also nach Crispi, die Zeit also 1894 bis 98 in Frage. Candeloro hat schon 60 bis 70 angenommen. Wenn man es nur von der Entstehung des Blocks des Protektionismus annimmt, dann wäre das entscheidende Datum 1887. Wir haben also hier drei Möglichkeiten der Periodisierung. Herr Tranjeno ist dann auf das Buch von Mario G. Rossi, das noch nicht erschienen ist, sondern nur ein Vorausexemplar hier in der Hand hat, über Movimento Cattolico e Classe Operaia nella crisi del sistema giolittiano, geht er hier ein. Besonders wichtig erscheint ihm eben hier die These, dass der Blocco Clerico Moderato aus dem Blocco Protezionistico entstanden sei. Und besonders interessant die Tatsache, dass hier die katholische Organisation geradezu als ein Instrument der kapitalistischen Entwicklung dargestellt werden, wobei Rossi die These vertritt, dass die spezifische italienische Wirtschaftsentwicklung mit ihren großen Unterschieden, mit ihrer großen auch teilweise Rückständigkeit, besonders auf agrarischem Gebiet, für die Anwendung oder für den Einsatz der katholischen Organisationen besonders geeignet war. Als Beispiel etwa die Ausnutzung der billigen Arbeitskraft, der Frauen- und Jugendarbeitskraft in Oberösterreich, über Italien in der Textilindustrie in einer Form, die gleichzeitig doch die Verbindung mit der agrarischen Welt durchaus beibehalten hat. Hier sieht er die positivste Leistung des Beitrags Rossis, dass hier die Geschichte der katholischen Bewegung in die Diskussion der italienischen Entwicklung, der Wirtschafts- und Sozialentwicklung eingegliedert wird, dass hier die ganzen Probleme der christlichen Gewerkschaften, der Banken, der Bedeutung, der Funktion des Finanzkapitals, etwa des Banco di Roma, die Bedeutung gerade oder den Zusammenhang mit dem libyschen, mit dem Unternehmen nach Libyen, mit dem Tripolis-Krieg, mit der Entstehung eines katholischen Nationalismus bis hin zur Gründung, zur Überwindung Giolittis und zur Bildung des Blocco Salandrino, also Salandra und den Kriegseintritt hier kommt. Interessant auch im Zusammenhang mit der Unterwerfung der katholischen Gewerkschaftsbewegung unter dem Klerikomoderatismus, die Verbindung zu Ideen des Korporativismus, die ja im Katholizismus schon vorhanden waren, die aber auch besonders von den Nationalisten vertreten haben. Herr Tranierio hat dann darauf hingewiesen, dass die Arbeit von Rossi weitgehend auf Lokal- und Regionalstudien sind, wobei er besonders jene von Massimo Salvadori über die Turiner Entwicklung dargestellt hat. Er hat dann darauf hingewiesen, dass der schon erwähnte Convegno Padovano die Thesen Rossis übernimmt und radikalisiert. Er ist dann auch im Einzelnen auf die Arbeit von Salvadori, eben, die sich mit Turin beschäftigt, eingegangen, die von den Marxisten, etwa von Claudio Giovannini, besonders gelobt wurde. Die These Salvadoris war, es ist eigentlich dieselbe These wie die von Fonzi, aber umgestülpt, dass die Katholiken in Turin die einzige wirkliche Machtalternative gegenüber den Sozialisten gewesen sind und dass sie daher als Kandidaten für die Leitung des Staates empfohlen haben, wobei sie aber nach der Ansicht der Marxisten eben noch reaktionärer gewesen seien als die Liberalen. Salvadori bewundert sehr die katholische Organisation, die eben das ganz alle Lebensbereiche umfasst, sieht sie aber im Wesentlichen in einer antisozialistischen Funktion. Nicht Giolitti habe die Katholiken für den Staat gewonnen, sondern umgekehrt, die Katholiken hätten, Giolitti hätten die Liberalen für ihre noch reaktionärere Politik gewonnen. Tranierio kritisiert dann Salvadori, er sagt zunächst einmal, das große Problem Salvadori hat sich auf einen sehr kleinen Zeitraum beschränkt, das hat gewiss bestimmte Vorteile, aber auch die Nachteile, dass man also nicht in allzu großen Generalisationen geht, aber auch die Nachteile, dass die Wurzeln vernachlässigt werden. Auch sei der ausschließliche Vergleich Katholiken und Sozialisten irreführend er vermischt sehr die katholischen und die kirchlichen Organisationen. Es ist dann im Grunde genommen nicht die Geschichte, was ist das, die katholische Bewegung, sondern wie wirkt hier als Macht die entscheidende Amtskirche auf. Und dazu auch noch bei Salvadori und bei den anderen Neomarxisten eine gewisse Überschätzung der Geschlossenheit des Movimento Cattolico, dass man die verschiedenen Widerstände, Gegensätze und so weiter überschätzt. Und das führt dann überhaupt zur Kritik an Rossi. Nun, auch wenn man zugibt oder annimmt, ohne es zuzugeben, ammesso, ma non conceduto, non concesso, dass wirklich die wirtschaftliche Entwicklung Italiens besonders der katholischen Organisationsform und Organisationsschema entsprochen hat, so besteht doch die Gefahr, hier zu viel zu erklären. Erstens einmal ist die Teilnahme der Katholiken an der kapitalistischen Entwicklung auch vom marxistischen Standpunkt aus ja nicht per se ein Übel, sondern eben eine Entwicklung, eine fortschrittliche Entwicklung, wenn man nicht in einen absoluten Manichäismus, der die kapitalistische Welt verfeindet, der die kapitalistische Welt überhaupt als Übel beschäftigt. Das nun auch geradezu eine Position, eine integralistische Position nun wäre. Schließlich würde ja die Bedeutung, Funktion des Kapitalismus und Liberalismus ja auch durch die Marxisten anerkannt und man verfalle sonst sehr in Tautologien, wie etwa auch das Buch von Levra über den Colpo di Stato della Borghesia, weil ja dieser Colpo di Stato ja wirklich nicht zustande kam. Außerdem müsste man sich fragen, ob wirklich alle Katholiken nationalistisch, anti-Giolittianisch dann und nationalistisch und Salandrini geworden sein. Man dürfe überhaupt die große Bedeutung etwa einer Persönlichkeit, wenn man wie Giolitti hier nicht übersehen oder einfach negieren. Hat diese neomarxistische These die tatsächliche Rückständigkeit eines Teils des Katholizismus unterschätzt. Es gibt eben noch weiterhin diese antiliberalen Tendenzen, wie sie etwa in der Civiltà Cattolica, zum Ausdruck kommen, antimodernistische Gruppen im Katholizismus, diese Widerstände gegen den modernen liberalen Nationalstaat sind keineswegs mit diesem taktischen Bündnis des Klerikomoderatismus ja keineswegs überwunden. Und drittens ist es notwendig, gewiss die katholische Entwicklung mit der sozialistischen zu vergleichen, aber keineswegs allein. Die katholische Alternative ist ja in der Ära Giolittiana nicht so ausgeprägt und man darf, wie gesagt, die Taktik und Strategie Giolittis und der Sozialisten, durch die ja immer auch die Haltung der Katholiken konditioniert wird, nicht vernachlässigen. Saninelli. Primo intervento Saninelli. Io ho una relazione da fare in questo giorno di due cose e credo di tornare con maggior dettaglio. Però c'è una considerazione che direi di mettere, non posso non fare in seguito a quello che è stato detto, a quello che è stato detto. Ed è che queste ipotesi di lavoro, questa soprattutto di Rossi, che io ho ampliato molto l'attenzione, ma potevano non essere così. Ecco, queste ipotesi di lavoro hanno dietro in pratica il vuoto dal punto di vista della storiografia economica e sociale. E questa è una cosa che non può essere taciuta. Cioè, in pratica, problemi che qualcuno voi possono anche accennare, ma in generale, se non ci si accontenta di generalizzazioni del tipo del modello di sviluppo capitalistico italiano, punto e basta. Tanto per intendersi, ma poi in pratica, per sottintendere delle realtà non conosciute e certamente molto, molto diverse tra di loro, molto articolate. Se non ci si accontenta di questo, bisogna riconoscere che la storiografia economica italiana per il periodo 1880-1914, per non andare oltre naturalmente, su questo sviluppo italiano, su questo modello o modelli di sviluppo, praticamente non ha scritto niente, o ha scritto o ha tentato solo delle grandi ipotesi interpretative che poi sono rimaste solo tali perché i lavori di Romeo e di Gesher non hanno interessato i tecnici, gli economisti in senso stretto più che non gli storici. Non hanno poi prodotto dal punto di vista di una ricerca puntuale, ambiente per ambiente, problema per problema, hanno prodotto veramente molto poco e certamente non hanno prodotto una letteratura sufficiente per tentare una sintesi, un'interpretazione del modello di sviluppo. Chiedo subito, tra l'altro, per essere un po' rigorosi, il modello di sviluppo vuol dire in italiano sviluppo, vuol dire trasformazione. Secondo me ci possono anche essere dei forti dubbi sullo sviluppo. Si può dire una certa industrializzazione, si può dire una certa trasformazione del tessuto economico e sociale, Già il termine sviluppo può lasciare piuttosto perplesso, insomma, soprattutto se si confronta con quello che è accaduto nel nostro paese con quello che è accaduto in altri ambienti. Ora, la cosa curiosa, e dico curiosa così per gentilezza, insomma, è che si insista in interpretazioni del peso e della portata, no? Soprattutto politica, come questa di Rossi, di Amaro e degli altri, non si voglia far presente che in buona sostanza non è da quella parte lì che può venire una interpretazione accettabile della storia economica italiana alla quale legarsi poi per dare un'interpretazione di quello che è stato il ruolo del movimento sociale cattolico, del movimento cattolico in Italia. Cioè, secondo me si sta ripetendo una sorta di errore che già noi abbiamo all'attivo o a passivo, secondo dei punti di vista. Noi abbiamo una storia del movimento operaio italiano, una storia del movimento contadino, una storia delle forme associative ed organizzative del movimento operaio contadino italiano, da capo in carenza di una storia economica italiana, di una storia, per dire, della tecnologia, per esempio. Citava Daniele prima, con riferimento all'autore o agli autori di cui sopra, insomma, il problema, per esempio, del finanziamento dell'industrializzazione in Italia. Che titoli si possono citare come fatto di ricostruzione di quello che veramente è stato il finanziamento dell'industrializzazione in Italia a partire dal 94-96? Non ce ne sono come? Sì, lei può far parte, siccome è stato 3 titoli, a 5 titoli, è stato tutto, ha coperto tutto. Le forme di finanziamento di una struttura industriale che è giusto dirlo. È rimasta tuttora quella di caratterizzata dal predominio dalla piccolissima impresa, per la quale è noto che il tipo di finanziamento più diffuso è l'autofinanziamento, non il finanziamento dell'istituto di credito. Questo per l'industria. La stessa cosa può dirsi per l'attività agricola, in pratica il discorso del credito è un discorso di entrata e uscita immediata. La cassa rurale, la piccola cooperativa di credito, che non esercita il grande credito. Esercita il credito sul piede, come dire, dell'unità locale, del comune, della piccola comunità, no? Su questa questione qui, sì, si possono fare, forse già, si può fare qualche discorso in fatto di finanziamento di attività speculative in campo immobiliare, ma è solo e soltanto questo, cioè un'attività privilegiatissima da un certo tipo di borghesia italiana che ha sempre giocato su queste cose, si è arricchita, ma che con lo sviluppo industriale, se vogliamo usare questo termine, in effetti ha poco a che fare. Quindi, in pratica, a me sembra questo un rilievo di colleghi, come dire, che se ne intendono più di me, quelli che ecco, possono darsi, che gradirei moltissimo una risposta su questo punto. Se è possibile, ecco, questa è la questione, se è possibile addentrarsi in disquisizione del tipo di quelli che hanno, su cui si è cimentato il Rossi, il comune di altri, con questo voto che fa, se non è, per dire, un gioco che è consentito soltanto da certe esigenze di natura strettamente politica contingente, per cui si arriva a dire con danaro, non so se Daniele ha lì davanti il contributo poi comparso nel volume, Danaro dice esplicitamente: la crisi del movimento cattolico in Italia va portata alle estreme conseguenze, e uno dei modi per portare alle estreme conseguenze è distruggere l'identità storica del movimento cattolico italiano. Questo è un obiettivo politico, non è più un obiettivo di natura storiografica. Chi fa il mestiere di storico queste cose non può ignorarle. Cioè non può ignorare che se il suo ragionamento e la sua ricostruzione è storica, e va bene, ci sono dei vuoti che al momento sono incolmabili, sono non colmabili, perché ripeto, noi siamo, dal punto di vista di questo tipo di ricostruzione, siamo piuttosto indietro. Se mi si risponde che invece è possibile, a prescindere da questo, io su questo punto gradirei discutere se i presenti sono d'accordo. Comunque è un modesto, come dire, contributo, un dubbio, ecco, un semplice dubbio che mi permetto di porre. Per me è di più che un dubbio, insomma. Abbiamo capito. Grazie molto, Cristiano. Grazie a me. Questo è lo senso. Grazie. Buon discorso. Buon discorso. Grazie a Zaninelli. Zach. die Hypothesen von Herrn Rossi und Herrn und all dem und dem Padua Konvent und so weiter, die gestern und heute Gegenstand der Diskussion seien, seien wirtschaftsgeschichtlich völlig ungenügend untermauert. Es gebe keine allein mit dem Schlagwort Sviluppo Capitalistico Italiano könne man nicht arbeiten, denn es käme jetzt darauf an, zu wissen, wie das geschehen sei. Es gäbe zwar über Arbeiterbewegung und Landarbeiterfragen und so weiter einige Teiluntersuchungen, aber das eigentliche Problem, wenn man von Sviluppo spreche, dann meine man doch wohl die Transformation der vorindustriellen Gesellschaft in eine stärker industrialisierte Gesellschaft, das heißt also die Entstehung der Industrialisierung, und dafür fehle es etwa die Frage, wie ist die Industrialisierung finanziert worden, wer hat sie finanziert, mit welchen Methoden, sei nicht behandelt. Das heißt also, es würde ständig etwas als bekannt vorausgesetzt, das noch gar nicht erforscht ist, nicht detailliert erforscht ist. Was es gebe, seien nationalökonomische Theorien und einige allgemeine Darlegungen, aber keine konkrete, an den wirtschaftsgeschichtlichen Fakten, die aufzuarbeiten wären, orientierte Gesamtsicht. Und zum Schluss sagt er dann, dass daher sei das Ganze mehr ein Wortspiel im politischen Kontext der heutigen Tagesauseinandersetzung, die, wenn ich sie richtig verstanden habe, wobei das Ziel dieser Auseinandersetzung sei, das Bild, das die katholische Historiografie oder die Historiografie über die katholische Bewegung gezeichnet hatte, zu zerstören mit politischen Zwecken, die man einsehen könnte. Aber die Basis des Ganzen, nämlich die saubere wirtschaftsgeschichtliche Erforschung, Darstellung der Zeit Italien von 1894-96 bis 1914 oder 1918, die fehlen. Herr Wanduschka, habe ich es richtig dargelegt? Io preferirei forse raccogliere gli interventi a gruppi o anche tutti, ci sono sei iscritti, non so, per rispondere insieme. Anche perché questo mi fa comodo, perché quando non so rispondere, se c'è qualcuno. Yes, dunque, das nächste, Herr Lill. Ja, ich möchte nur ganz kurz auf zwei Punkte hinweisen, die aus dem Referat von Herrn Traniello mir als sehr gut vergleichbar oder als partiell vergleichbar mit deutschen Entwicklungen erscheinen und insofern ja in den Ausgangspunkt unseres Kolloquiums gehören. Herr Traniello hat gesprochen von dem Problem, von der heute oft diskutierten Problem der Einbeziehung der Katholiken in die konservativ-bürgerliche Mehrheit. Nun, da könnte man vergleichen die große konservative Wende des Bismarckreiches von 1878 bis 80, die Beilegung des Kulturkampfes, die Bemühungen Bismarcks, aus dem Zentrum eine Art Regierungspartei zu machen, stehen in direktem Zusammenhang mit der Ausschaltung der Liberalen, mit der Einführung des Schutzzolls und mit der Festschreibung der konservativen Reichsstrukturen, die von da ab die deutsche Geschichte des Geiselreichs bestimmt haben. Und man darf vielleicht hinzufügen, dass Leo XIII., der in der Frühphase meines Erachtens noch sehr konservativ war, mehr als das deutsche Zentrum selber, an dieser Einbeziehung der deutschen Katholiken in Bismarcks Mehrheit interessiert war, darauf gedrängt hat. Das wäre Punkt 1 und Punkt 2, noch viel kürzer, diese zum Schluss angesprochene Gegnerschaft der Amtskirche gegen die modernisierenden Bestrebungen, die strukturelle Rückständigkeit wichtiger und führender katholischer Kreise ist ja auch eine Gemeinsamkeit, die sowohl die italienische wie die deutsche katholische Bewegung belastet hat. In Deutschland ist das ja ungefähr gleichzeitig eben im Gewerkschaftsstreit, Modernismusstreit herausgekommen. Dunque vorrei accennare molto brevemente a due punti emersi dalla relazione del professor Traniello che dimostrano alcune cose che sono a mio parere ben paragonabili tra la situazione e lo sviluppo in Germania e quello in Italia. Taniero ha parlato del problema oggi così discusso della inserzione dei cattolici nel blocco conservatore. Si potrebbe almeno parzialmente paragonare la grande svolta conservatrice della politica interna tedesca degli anni 1878-80. In quella svolta, nel programma esposto e in gran parte realizzato da Bismarck in quegli anni, troviamo il componimento del Kulturkampf, un avvicinamento alla Chiesa cattolica, il tentativo di riportare il centro cattolico dentro l'area dei partiti governativi, e allo stesso tempo troviamo il protezionismo, l'emarginazione del partito liberale e troviamo pure la cementazione delle strutture conservatrici dell'impero. Il centro stesso, il Partito Cattolico Tedesco, ha esitato e si è integrato soltanto parzialmente in questa coalizione conservatrice, però bisogna sottolineare che proprio Leone XIII, che almeno nei suoi primi anni era molto conservatore, ha favorito questo avvicinamento. Anche lui ha esercitato delle pressioni molto forti sul partito del centro affinché questo accettasse le offerte bismarckiane e si integrasse completamente in quel blocco conservatore. Molto più brevemente si potrebbe accennare allo secondo punto, questa adeguatezza strutturale della Chiesa ufficiale, di cui Taniero ha parlato infine, che si è manifestato in Italia, è la stessa cosa che si è manifestata anche in Germania, anche da noi, quelle forze innovatrici, quelle forze che andavano verso la democratizzazione, di cui abbiamo parlato ieri, trovavano la netta opposizione e un netto rifiuto da parte della Curia di Pio X e di molti vescovi conservatori. Qui si sarebbe da parlare ancora del problema dei cattolici a destra del centro, dei Staatskatholiken, ma questo è un altro discorso che forse facciamo quando si parlerà del centro cattolico. Belardinelli. Un piccolo contributo alla storia della parola clerico moderati, clerico moderatismo. Io ho trovato questo termine usato da la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, usata nei giornali democratici e radicali a indicare i contraenti di quelle alleanze elettorali amministrative che in pratica erano volte in sostanza a conservare il quadro sociale e religioso tradizionale negli enti locali, nei comuni, nelle province. E naturalmente con un'accentuazione dell'aspetto economico-sociale da parte dei moderati, no? Il problema della conservazione del potere, e dell'aspetto religioso da parte dei cattolici, i quali si preoccupavano che non avvenisse la laicizzazione dei comuni in campo istruzione, opere pie, spese di culto, eccetera. Naturalmente poi c'erano frequenti confusioni, no? Negli obiettivi non si può distinguere esattamente. Belardinelli, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollte einiges noch zum Ursprung des Begriffs oder des Gebrauchs Klerico Moderatismo, der ihm seit Anfang der 80er Jahre in radikaldemokratischen Publikationen, Zeitschriften, Zeitungen begegnet sei und die vor allen Dingen an kommunalpolitischen Fragen und den von den Kommunen in der Sozialpolitik, in der Krankenhauswesen und so fort, Schulpolitik und so fort begegnet sei und dass sie hier befürchtet hätten, dass in diesem Gebrauch des Wortes als eines Kampfbegriffs zugleich die Befürchtung liegt, dass die Vermischung mit den Liberalen hier die katholischen Ziele in Bezug auf Schule, auf Sozialpolitik und so fort, auf Sozialpolitik vielleicht sagen wir besser im Deutschen, auf Wohlfahrt, nicht in dem Sinne poi filosofia, anzi, di scuola, per stesse città, la sua casa, non si è bisogno del suo esordio, non si può, per stesse due famiglie. E come segue il signor Prezzi. Io volevo collegare Prezzi, no, Prezzi. Detto adesso può parlare un po' più loud. Venga qui per favore, perché si sente molto male. C'è una sedia ancora? Sì, c'è una sedia qui. Cioè, mi volevo collegare al problema dell'inizio di questo termine clerico moderato. Io volevo più che altro soffermarmi sull'aspetto dell'inizio politico, vero? E Traniello appunto mi sembra lo fa iniziare dopo la svolta del 90. Ecco, da un punto di vista interno di storia del movimento cattolico, secondo me si hanno proprio le basi dell'inizio del clerico modernismo con il 1902, vale a dire dopo un documento come le istruzioni che la storiografia sul movimento cattolico ha considerato come la fine della politica autonoma della democrazia cristiana di Romolo Mucco. Ecco, secondo me è invece la fine di qualcosa di più, non solo della democrazia cristiana di Romolo Mucco, ma la fine politica dell'opera dei congressi, di quello che rappresentava l'opera dei congressi nell'organizzazione cattolica italiana, e la fine anche della strategia politico-religiosa di Leone XIII. Naturalmente questa sconfitta non è, questa fine politica non è una cosa voluta, non è un omicidio politico da parte del pontefice, è secondo me una conseguenza di tutta una strategia che appunto contraddistingue il pontificato di Leone XIII, specie dopo la Rerum Novarum, che se all'inizio sul piano sociale sembra segnare alcuni successi, a lungo termine invece segna dei grossi insuccessi. L'indecisione anche del pontefice, no? La poca chiarezza su certi atteggiamenti, non a caso nel 1902 tenta ancora la carta dell'unità, la carta che era stata già giocata anni prima, per esempio da Toniolo con il famoso articolo sul concetto della democrazia, sul quale Forse in quel convegno sull'età di Leone XIII si è soffermato a lui. Ecco, c'è da dire che se infatti noi cattolici, cattolici, sì, la possibilità politica dei cattolici, e si tenta questa carta di giocarla su un'unità cautamente riformista. Non a caso Leone XIII e il gruppo vicino anche a livello di Curia Vaticana appoggiano la linea di Cristiano Sociale. Naturalmente, ecco qui il discorso è secondo me più articolato. Di solito appunto si è visto la sconfitta di Murri e della Democrazia. La strategia di Leone XIII secondo me era quella sì di sconfiggere Murri, di sconfiggere solamente il murrismo, ma di salvare le strutture della democrazia cristiana che invece potevano essere utili per il discorso cristiano sociale, ma nello stesso tempo di colpire il gruppo dirigente della presidenza dell'opera dei congressi, no? Che oramai portava avanti un discorso che non serviva più al mio pontificato. Ecco, qui adesso non c'è il tempo, no, per analizzare un po' queste varie posizioni, sia la sconfitta per esempio della democrazia cristiana, che secondo me anche questo è stato visto dalla storiografia come la sottomissione, no, da parte dei sicili. Ecco, secondo me andrebbe analizzata e capire come mai questa sottomissione, proprio perché c'è un senso di sgomento, direi, no, per questo atto che sono le istruzioni del 1902, proprio perché vengono colpiti quasi inaspettatamente. Così come sarebbe da analizzare le carenze dei cristiano sociali che non permettono la vittoria di questa linea che oltretutto era appoggiata appunto così in alto. E quindi da queste considerazioni, dicevo, si capiscono anche meglio i motivi di questa sconfitta della strategia di Leone. E adesso qui c'erano anche alcune citazioni, ma direi una sostanza che il motivo per cui questa linea cristiano-sociale non vince è proprio perché è un discorso molto teorico, no? Ma non si tiene conto della realtà, delle strutture che aveva l'opera dei congressi e la base, perché non a caso nell'ambito della presidenza dell'opera dei congressi la componente intransigente venta era ancora molto forte, per cui i cristiano sociali non possono fare meno di fare i conti con questa componente. Mentre a livello di base erano le strutture democratiche cristiane, le strutture più vivaci, più interessanti, e che in questa situazione di sgomento, di sconfitta che hanno nel 2, fanno debellare e non portano quindi questo contributo alla linea cristiana sociale. E di qui appunto questo impasse dirigenziale, nessuna di queste tre componenti, tutto sommato, ha la forza vincente per sopraffare l'altra, e quindi da questa crisi, secondo me, appunto, abbiamo chiaramente già nei due le posizioni che porteranno poi al successo della linea credito moderna nel decennio successivo. Se mi è concesso un ultimo momento proprio, a quello che diceva precedentemente, vorrei intervenire sia quello che diceva il professor Zannetti, no? Che mi sembra molto interessante e stimolante come dubbio. Io vorrei soltanto, non entro nel merito perché appunto non sono affatto un esperto di storia economica, e quindi voglio solo dire che il problema dei vuoti è un problema che c'è un po' attento, nel senso che se noi lo allarghiamo, si può allargare a parte dopo. E quindi, per esempio, lo studio della spiritualità ottocentesca, della parrocchia ottocentesca, delle visite pastorali che hanno arricchito, no, appunto, una certa produzione negli ultimi anni, secondo me non si potrebbero fare senza conoscere l'ecclesiologia, la cultura ecclesiastica che dopo il Concilio Vaticano I passa nella struttura chiesa a livello di piccole parroci come a livello di gerarchia, no? Quindi ecco, volevo fare questo paragone. Prezi, will nicht über die Wortgeschichte Klerikomoderatismus sprechen, sondern will fragen, von wann an sollen wir oder soll die Geschichtsforschung sinnvoll den Begriff Klerikomoderatismus benutzen. Im Unterschied zu Herrn Paniello, der das Jahr 1898 als Wendepunkt bezeichnet hatte, plädiert er durch sehr knapp zusammengefasst, er könnte es im Einzelnen nicht entwickeln, für das Jahr 1902, und sagen, bis zum Ende des Pontifikates Leos des 13. sind die Dinge noch nicht entschieden. Leo der 13. hätte immer noch beide Karten gehabt und sei eigentlich bis zum Schluss unentschieden geblieben, was er habe ausspielen wollen. Erst mit der Niederlage der Demo Christiani, dann mit dem Einstellen des Werkes der Kongresse sei die Wende zu setzen. Das Letzte dann noch in Bezug auf den Vorwurf von Herrn Zaninelli, dass man sozusagen über einem Nichts etwas aufbauen wolle, Problema dei vuoti, hat er gesagt, ganz ähnlich sei es wohl auch in einem ganz anderen Feld der Forschung, wenn man wie in der letzten Zeit viel, Geschichte der Pfarrei oder Geschichte der Spiritualität im 18. Jahrhundert untersuche, im 19. Jahrhundert untersuche, ohne zugleich die, das Bild von der Kirche, das geherrscht habe oder vorhanden gewesen sei, dagegen zu halten. Man könne nicht Spiritualität einer Pfarrei im 19. Jahrhundert ohne Bezug auf das Erste Vatikanum, auf die Ekklesiologie, die hinter dem Ersten Vatikanum gestanden hat, untersuchen. Entschuldigen Sie, dass ich bitte. Möchten Sie dazu noch? Ja, ja. Ja. Hier ist auch Herr Dr. Andermatt. Ja, dazu, was gerade ja gesagt wurde, ist nicht ganz klar geworden, ist auch kein Vortrag, vielleicht habe ich es überhört, welches die eigentlichen ideologischen Differenzen sind zwischen den Demokristiani und den griechischen Moderaten. Wo diese Schwerpunkte der ideologischen Auseinandersetzung im Einzelnen lagen, nicht nur in Bezug auf den Staat, auf die Integration in den Staat. La mia domanda è, quelle sono le differenze ideologiche tra i democristiani e i greci moderati? Non solo rispetto alla integrazione, allo Stato, ma nel fondo delle idee. Credo che questo sia un problema su cui molta chiarezza potrà essere fatta dopo la relazione di domani di Scopola, che affrontando il tema della Lega Democratica Nazionale, indicherà anche dal punto di vista programmatico e ideologico le così, origini di questa vicenda. Ma vi posso scusi. Qualche breve indicazione di chiarimento, soprattutto per gli amici tedeschi che si trovano forse di fronte a una terminologia che è un po' propria della storiografia italiana. I democratici cristiani, molti dei clerico moderati erano di coloro cioè che accettano questa le tattiche clerico-moderate, l'alleanza di fatto con la classe politica amministrativa liberale, soprattutto al momento delle elezioni, questo è il punto, molti di questi clerico-moderati appartenevano in origine al movimento della Democrazia Cristiana. Il caso più clamoroso è quello di Meda a Milano e altri si potrebbero indicare. Bertini, Giovanni Bertini. Bertini e molti altri. Quindi anche quando si parla di democratici cristiani bisogna probabilmente distinguere. C'è questo movimento democratico cristiano che rappresenta un'ala del movimento cattolico intransigente in origine, che cioè si colloca all'interno dell'organizzazione dell'opera dei congressi e che si differenzia rispetto agli intransigenti più radicali, più reazionari e anche diciamo più clericali per alcuni elementi sostanziali, direi. Il primo che mi parrebbe di indicare è l'accettazione del fatto compiuto, la rinuncia alle pretese temporalistiche, più o meno esplicita questa rinuncia, ma reale. E l'altra è il tentativo di proporre una posizione riformistica sul piano, per esempio, delle amministrazioni locali, accentuando gli aspetti dell'autonomia o del decentramento rispetto allo Stato accentrato liberale, chiedendo l'allargamento del suffragio e così via. Da questo nucleo che si indica come movimento della prima democrazia cristiana, che è molto composito, si può dire che dopo il 98 o comunque nel 900 si dipartano due linee divergenti, quella dei democratici cristiani autonomi, che poi si daranno una loro organizzazione anche autonoma, cioè che non si riconoscono più tanto nell'opera dei congressi, ma che soprattutto poi sopravvivono allo scioglimento dell'opera dei congressi con una loro organizzazione, i quali battono più decisamente, dibattono direi più decisamente idee riformistiche sul piano dell'organizzazione dello Stato, dell'allargamento del suffragio, della necessità di allargare ai ceti subalterni, di democratizzare appunto in questo senso le strutture e l'organizzazione dello Stato liberale. E in questo senso entrano in polemica contro i liberali, in particolare contro i liberali moderati, che vengono accusati di essere in realtà dei conservatori. L'elemento discriminante di questi democratici cristiani che si distaccano e continuano sulla loro strada probabilmente va ricercato nella questione che diventa cruciale in questi anni dell'autonomia politica dei cattolici, cioè dell'autonomia dei cattolici sul piano politico. Cioè questi democratici cristiani sostengono, arrivano per in parte, almeno, qui forse Fonzi avrà qualche dubbio, dibattono, ovvero si incontrano con questo tema che è quello dei margini di autonomia, e loro affermano che politicamente i cattolici devono essere, ai cattolici deve essere garantita autonomia. Gli altri clerici moderati invece, pur essendo spesso, avendo una matrice democratica cristiana, sono meno sensibili in fondo a questo tema dell'autonomia dei cattolici e si tengono quindi collegati alla sono in certa misura più legati alla struttura, ancora alla struttura organizzativa dei cattolici, alla struttura ecclesiastica, sono più obbedienti in un certo modo, e infatti premuniscono, per esempio, cercando il consenso dei vescovi nel momento in cui violano il non exit, cioè partecipano alle elezioni, e in generale lo fanno con il consenso dei loro rispettivi vescovi. Non so se è stato sempre, sono stato sufficientemente chiaro. Darf ich vielleicht ganz kurz übersetzen? An sich wird in dem Referat morgen auf das Problem eingegangen, aber Herr Daniel will schon ganz kurz erklären, sowohl die einen wie die anderen gehen in der italienischen Geschichte von zwei Grundpositionen, von zwei gemeinsamen Grundpositionen aus, nämlich einmal, dass der Verlust des Kirchenstaates in dieser oder jener Weise akzeptiert wird, wenn nicht explizit, so doch implizit, und zweitens, dass beide für Reformen sind in der Kommunalverwaltung, vor allen Dingen auch im Wahlrecht für die Deutschen. Darf vielleicht daran erinnert werden, dass der italienische Nationalstaat ja auf einem ganz exklusiven Zensuswahlrecht beruht, für das wir gleichzeitig in Deutschland keinerlei Parallele haben. Dass dann das Preußen des Dreiklassenwahlrecht ist ja noch demokratisch gegen das Wahlrecht von. So, wir könnten darüber sprechen, also das hat er nicht gesagt, ich habe es nur zur Erklärung beigebracht. Nach 1898 gibt es dann zwei Verhaltensweisen. Die Demokristiani sind diejenigen, die politisch selbstständig sein wollen, und diese politische Selbstständigkeit so. Für sie ist die politische Selbstständigkeit, die organisatorische Selbstständigkeit als politische Gruppe so wichtig, dass sie bereit sind, von dem Weg, den die kirchliche Hierarchie möchte oder den die anderen möchte, sich zu entfernen, von der Kongressarbeit wegzugehen, während der Clerico Moderato die Bedeutung der eigenständigen Partei, oder wenn man nicht von Partei spricht, sondern politischen Gruppierung weniger wichtig nimmt, bereit ist, mit sich in die vorhandenen politischen Organisationen in sie hineinzugehen und grosso modo mehr gehorsamer gegenüber den jeweiligen Entscheidungen der Kirchen stellen über Beteiligung an Wahlen oder Nichtbeteiligung an Wahlen und so weiter sich verhält. Jetzt wäre als nächster Herr Fonzi, dann Herr Scopola und dann Herr Camayani. Ecco, sarei tentato di naturalmente di dire diverse cose dopo aver sentito questa tanto ricca. Ma non soggiacerai la tentazione. Come? Ma non soggiacerai la tentazione. Ma però sei libera nostra madre. Mi risparmio, no? E voglio limitarmi alcune cose perché ritengo necessario farlo, anzi mi si chiede di farlo, no? Essendo chiamato in causa. Quindi anzitutto per fatto personale riguardo a quella definizione data da Franiello del mio libro del 65 sul contratto milanese del 1895. Ora io non pensavo di esprimere in quel momento un giudizio circa un clerico moderatismo giudicato positivamente nei confronti dei democristiani autonomi del 1905-6, in quanto che il periodo del problema era un altro. Ossia, io personalmente, come ho detto ieri, ritengo sempre che la linea centrale di sviluppo del movimento politico-sociale dei cattolici italiani sia lo sviluppo dei motivi del cattolicesimo sociale della prima democrazia cristiana sboccati nel Partito Popolare Italiano. Ma, nello stesso tempo, non ritengo che nei metodi clerico moderato e nel periodo clerico moderato ci sia soltanto il male, proprio per non essere manicheo, no? Per accettare l'invito di Traviello, non è solo male. Ho detto metodi clerico moderati e quindi lo insistevo sul concetto di clerico moderatismo come un metodo, come uno strumento anzitutto elettorale, e perché in verità questi clerico moderati di cui si parla tanto, non so proprio cosa siano, non so proprio chi sono. Mi sembra che anche Traviello ci ha detto molto bene chi sono i democratici cristiani autonomi, sono qualche cosa di preciso, che hanno un programma preciso, no? È politico-sociale. Lo stesso si può dire dei conservatori nazionali, che avevano un loro preciso programma, volevano fondare un loro partito con un loro programma. Secondo me il clerico moderatismo è soltanto un mezzo, uno strumento usato da uomini di differenti posizioni politico-sociali, a vantaggio di uomini con differenti posizioni politico-sociali. Il contratto del 1895, secondo me, ha un significato anzitutto nell'accettazione dello Stato costituzionale rappresentativo, sull'accettazione di questa realtà e di questo metodo. È un'accettazione che invece, per esempio, Burri allora non condivideva e che invece verrà raggiungendo proprio nel 1905, ossia anche Burri della Lega Democratica Nazionale, comprende la Lega Democratica Nazionale, accetteranno questo presupposto che prima negavano, combattendo lo Stato come mostro immane. E concretamente questo contratto milanese non aveva, come c'è troppo, mi sembra che si dica, un significato di alleanza di classe contro un'altra classe. Non era un contratto fatto contro gli operai e nemmeno contro i socialisti, essenzialmente. Il pericolo reale in quel momento era la conquista del comune di Milano da parte dei democratici bassoni, no? Che erano la vera alternativa, direi, politica e amministrativa di quel tempo. Sarebbero stati loro a reggere il comune di Milano e non certamente i socialisti. Quindi da parte dei cattolici era prevalente la preoccupazione per la conquista da parte di questi uomini, che dal punto di vista economico-sociale, come dicevo ieri, erano poi dei grossi banchieri, dei grossi industriali, dei grossi commercianti di Milano, questo avrebbero contato. E volevo così esprimere il mio accordo in linea generale su quanto diceva alla fine Traiello circa la adesione al giolittismo, no, da parte dei cattolici, di molti cattolici, della maggioranza dei cattolici. È veramente strano, no, che da parte di storici che hanno valutato positivamente Giolitti e il giolittismo poi si veda nell'adesione di cattolici a questa posizione, gli stessi questo volevo dire, la situazione sta cambiando con tutti i marxisti, perché il giudizio che prima era quasi generalmente positivo sul giudizio giolittismo sta diventando spesso negativo. Però direi che fin da allora gli stessi sì, che giudicavano positivamente Giolitti e giolittismo condannavano i cattolici per aver appoggiato Giolitti nell'età giolittiana. Quindi questa contraddizione c'era. Io vorrei aggiungere a quello che giustamente diceva Traiello che la situazione secondo me è molto più complessa di quello che generalmente si dice su questo voto dei cattolici, voto clerico moderato nel 4 e nel 9, ma soprattutto nel 1913 col patto Gentiloni. Ora, questo voto non solo va a vantaggio di cattolici che sono a volte conservatori, Corraggia è un conservatore naturale, ma in altre volte sono dei riformisti, dei democratici riformisti, del Domenico Bertini, ma anche Mauro, eccetera, e a volte sono anche su posizioni socialmente accentuate come Migliori, no? Che viene eletto, ma non nelle liste, va bene, ma appunto come si deve accettando, perché si deve accettando la partecipazione in quel modo. No, ecco, perché la Lega Democratica Nazionale non può essere caricata di tanti significati socialmente avanzati nei confronti di Migliori, che accettava quel modo di partecipazione, no? Ora, quindi, cattolici di diverse posizioni, e su diverse posizioni sono questi liberali che ricevono il voto di cattolici, no? Dei voti vanno, si dice generalmente che i cattolici votano per il partito giolittiano, per i giolittiani, per Giolitti. Vantano certe volte per dei giolittiani, certe volte per degli avversari di Giolitti, e non sono soltanto gli avversari di destra, Salandrino, Solvignani, ma possono essere avversari di sinistra, di estrema sinistra. In quello schema non so come si collochi, direi, l'invito dei vescovi di Antonio e di Gallipoli ai cattolici di votare per dei viti De Marco, no? Antonio De Viti De Marco, che è un radicale antiprotezionista, che poi voterà contro il governo Giolitti e continuerà a farlo cadere all'inizio del 14. Quando si parla quindi di questi cattolici che vanno alle elezioni per sostenere il giolittismo moderato protezionistico, credo che si limiti il significato di una partecipazione che ha diversi significati e diversi. Es ist etwas schwierig für mich, das jetzt kurz zusammenzufassen. Herr Fonti legt Wert darauf, dem er im Allgemeinen durchaus mit Herrn Traiello übereinstimmt, darauf hinzuweisen, dass während für die italienischen Konservativen oder für die Katholiken, für die Democristiani, man nicht nur von einer politischen Gruppe, sondern auch von einem Sachprogramm sprechen kann, das politisch realisiert werden soll. Der Clerico Moderatismo ein solches Sachprogramm kaum habe, sondern mehr eine Technik, eine Kampftechnik, eine Wahltechnik oder eine politische Technik für außerordentlich wechselnde Ziele gewesen sein. Und diese Ziele, für diese Ziele hat er einige Beispiele gebraucht, was er damit sagen will. Ich will für die deutschsprachigen Teilnehmer nur drei Punkte herausgreifen. Das eine ist seine Untersuchung von 1965 über Mailand, über die Patto, die Contratto von 1895, die Alternative für die Katholiken, wenn sie nicht mit den Liberalen zusammengehen wollen, sei ja nicht gewesen der Sozialismus, sondern, oder Arbeiterbewegung oder Klasse oder so etwas, sondern sei gewesen die Herrschaft der radikaldemokratischen Freimaurer in der Kommune Mailand. Das sei die konkrete Alternative gewesen. In dieser konkreten Alternative hätte sich der Klerikomoderatismo so entschieden. Andererseits dürfte man auch nicht die Einbeziehung, die Einführung, die Integration des Katholizismus, des Klerikomoderatismo in Giolitti und seine Anhänger, seine Bewegung, dürfen man nicht überschätzen, denn übrigens fragt er dann mehr in Parenthese, und das ergab sich dann auch aus den Zwischengesprächen noch, dass der Giolittismus, dass Giolitti und seine Politik in der marxistischen Geschichtsschreibung nun völlig anders gewertet werden, dass sie eine völlige Umwertung, während er früher sehr hoch bewertet wurde und den Katholiken der Vorwurf gemacht wurde, sie hätten ihn zu wenig unterstützt oder sie hätten ihn zu wenig bekämpft, würde er jetzt sehr schlecht beurteilt. Dass aber auch der Klerikomoderatismo nicht einseitig auf Unterstützung Giolittis angelegt gewesen sei, sondern durchaus auch in Wahlen sich anders entscheiden kann, je nach örtlichen, regionalen, persönlichen oder sonstigen Ergebnissen, und brachte dann zum Schluss als Beispiel, dass, wenn ich es recht verstanden habe, in Gallipoli mit katholischer Unterstützung ein radikaler Abgeordneter gewählt wird, der Protektionist ist und 1914 zum Sturz Giolittis beiträgt, sodass also eine Wahlentscheidung des Klerikomoderatismo auch zum Sturz des hier beigetragen hat. Jetzt käme Herr Scopola. Io vorrei fare anzitutto un'osservazione su un punto della relazione di Traniello, un'osservazione che è rivolta in modo particolare ai più giovani, direi amici tedeschi, perché non siano indotti in tentazione di confusione. Traniello ha giustamente sottolineato che questo incontro di cui parla tanto però la storiografia di ispirazione marxista del mondo cattolico, del movimento cattolico con la borghesia italiana e con il mondo capitalista avviene di fatto con quella borghesia, con quella parte della borghesia, o almeno con la borghesia che è interpretata ed espressa politicamente da Giolitti, ossia con quella parte della borghesia, con quella espressione politica della borghesia che ha rifiutato, ha superato il colpo di Stato, ha respinto la tentazione di una soluzione autoritaria di fronte alla crisi del 98. E da questo giustamente Traniello traeva alcune conclusioni per ridimensionare questo giudizio di tipo manicheo, totalmente negativo, senza sfumature nei confronti del moderatismo. Ecco, noi sappiamo, ed è bene sottolinearlo, che il giolittismo in realtà è un qualcosa di bifronte, una vignetta di un giornale umoristico del tempo rappresentava Giolitti con due facce, un Giolitti vestito da borghese, civile, in cilindro e in palamidone, che è il Giolitti che guarda l'Italia del Nord, all'Italia industrializzata, e viceversa un Giolitti vestito da brigante, che è il Giolitti che guarda l'Italia del Sud, che è i giolitti del sottogoverno, del malgoverno, contro il quale si ribellava e combatteva Luigi Sturzo negli anni della sua formazione. Non a caso l'osservazione di Traniello, che io condivido e che è molto giusta, l'ha fatta, l'ha formulata a proposito del libro di Massimo Salvatori sul Piemonte, sul il movimento cattolico in Piemonte. Credo che non si potrebbe farla, vedo che Traniello consente, se avesse preso appunto di riferimento, per esempio, la biografia di Luigi Sturzo, scritta di qualche anno fa, di Piva, di Francesco Piva, di Francesco Mangieri, che nella sua prima parte, che è appunto di Francesco Piva, illustra ampiamente questa lotta e questa mobilitazione del mondo contadino per reagire al malgoverno ispirato dai prefetti regionali. Questa mi sembra una precisazione interessante, perché non si creino equivoci, quando poi dovremo parlare domani dei cattolici, diciamo, democratici, dei democratici cristiani autonomi che sono e si dichiarano antigiolittiani. Vorrei aggiungere, se posso, ancora due minuti, non so se mi consente, ancora qualche brevissima osservazione. Giustamente da questa considerazione Traniello traeva una conclusione meno radicalmente negativa o manicheisticamente negativa sul clero. Perché? Perché effettivamente in questa fase i cattolici, nella espressione politica clerico moderata, accettano l'Italia industriale, accettano il regime parlamentare, accettano, possiamo dire, la democrazia parlamentare. Ecco, qui mi pare interessante introdurre un momento di attenzione a questo problema del concetto di democrazia che i cattolici hanno ed esprimono nelle loro scelte. E io già pensavo a questo, avevo anche chiesto la parola, ma poi non è stato possibile per mancanza di tempo, pensavo a questo ieri a proposito della relazione così ricca del professor Lille sull'associazionismo cattolico in Germania. Anche nella relazione di Lille si parlava di democrazia, mi dispiace che non sia presente, in due significati: attenzione ai problemi sociali, ai problemi di giustizia sociale, spinta alla giustizia sociale, dall'altro democrazia parlamentare. Quella che ancora manca, mi pare che anche in Germania il problema sia da porti, quello che certamente ancora è estremamente lacunosa in Italia in quegli anni, è un'altra intuizione della democrazia, che poi è l'intuizione più ricca e più profonda. L'intuizione della democrazia come un qualche cosa che supera la definizione restrittiva della graves de comuni, l'actio benefica in populum, che poi non si capisce bene se è in, se è a favore o se è contro il popolo, resta in dubbio nella interpretazione di questo in latino. Il superamento di questa concezione restrittiva è viceversa il concetto di democrazia, che è quello autentico, qualunque sia adesso la sua provenienza ideologica, democrazia come mobilitazione di energie popolari, democrazia come popolo che diventa soggetto attivo, che non è più oggetto di politica o di azione benefica, ma è soggetto attivo di vita politica. Questa intuizione della democrazia come mobilitazione di forze popolari implica tutto un processo di revisione culturale rispetto alla cultura cattolica del tempo, profondamente informata dagli schemi del neotomismo, eccetera, che significa accettazione della storia, significa accettazione della dialettica della vita sociale, della complessità della vita sociale, delle tensioni che la vita sociale esprime, e quindi implica necessariamente quella rivendicazione di un momento di autonomia nell'azione politica, che è la condizione stessa perché un'autentica democrazia possa esprimersi, e quindi al di là degli schemi gerarchici di un movimento cattolico organizzato che dipende dall'altro. E ancora un'ultima osservazione, ho finito. In fondo mi pare che da tutto quello che è emerso finora, io ho perso la prima giornata, ma mi è stata riassunta, sia per quanto concerne la Germania e soprattutto per quanto concerne lo sviluppo del movimento cattolico italiano, mi pare che risulti che questo movimento, proprio per la sua natura interclassista e per il fatto stesso di essere sorto sotto la spinta di una tematica che è religiosa prima che politica, finisce col qualificarsi di volta in volta in ragione delle alleanze politiche. Sono le alleanze politiche quelle che caratterizzano e danno significato ai singoli momenti di sviluppo del movimento cattolico. E in questo mi distacco e polemizzo e rifiuto quell'interpretazione riduttiva produttiva e direi massificante della nuova storiografia marxista, che in fondo stende un velo di grigio su tutto e rifiuta tutto in nome dell'incontro col capitalismo. È profondamente diverso il clerico moderatismo dal clerico fascismo, perché la borghesia con cui si incontrano i cattolici nel primo Novecento in Italia è la borghesia egemonizzata dalla politica di Giolitti. Viceversa, il clerico fascismo è l'incontro con una borghesia che ormai si esprime chiaramente nel fascismo. È diversa la scelta di De Gasperi all'inizio del secondo dopoguerra, nella fase costituente, che è caratterizzata ancora da una collaborazione fra tutti i partiti fascisti, dal successivo centrismo. È diverso il centrismo dal centro-sinistra, anche se sono sempre dei cattolici nelle loro espressioni politiche che in fondo condizionano, tengono il potere e in qualche modo rappresentano il nervo, diciamo, del governo nel paese. Questo momento delle alleanze politiche diventa di fatto un elemento qualificante per un movimento come il movimento cattolico, che non nasce da un'ideologia politica di carattere totalizzante, capace di dare un'interpretazione del mondo che abbia per sé significato politico, ma che nasce viceversa da un'ispirazione religiosa. Scopola drei Dinge bemerken. Erstens, besonders für uns aus Deutschland und für junge und für die, ja, auch, ich glaube auch für die Alten. Per i giovani. Ah, siamo tutti giovani. Man dürfe Giolitti nicht einseitig sehen. Die Ära Giolittiana trage ein Doppelgesicht, was oben so ist, sieht unten anders aus. Wenn Herr Raniello nicht über Piemont, sondern über ein süditalienisches, über ein Buch, das über das gleiche Problem in Süditalien geschrieben worden wäre, zu berichten gehabt hätte, dann hätte es ganz anders ausgesehen. Und man müsse also Giolitti nicht zu, wir würden sagen, zu monolithisch oder zu monokolor betrachten. Man dürfe vor allen Dingen nicht vergessen, dass das Bürgertum, die Bourgeoisie, die von den marxistischen Autoren in Bezug auf Giolitti angegriffen wird, dass sie ja nicht den Staatsstreich gewollt, sondern den Staatsstreich abgelehnt habe. Das sei ja der Inhalt von Giolitti gewesen. Zweitens, er würde noch weniger negativ als, oder man kann es auch sagen, positiver noch als Raniello, das prinzipielle Akzeptieren der parlamentarischen Demokratie durch den Clerico-Moderatismo beurteilen. Und kommt von hierher dann noch zu einer Bemerkung in Bezug auf Herrn Lill, der gestern mehrfach von Demokratisierung gesprochen hatte, wobei Demokratie und Demokratisierung, ohne die Begriffe scharf voneinander zu trennen, doch zu sagen, was mit Demokratisierung gemeint sein solle. Einmal Sozialreform, zum anderen parlamentarisches System. Aber Herr Scopola stellt nun die Frage, parlamentarisches System vom späten 19. und frühen 20. Jahrhundert her, was heißt das? Gibt es Projekte, die von Demokratie zu Demokratisierung im Sinne von Ennis Nummer 2, also von einer größeren Teilhabe des Einzelnen am nicht nur staatlichen, sondern auch gesellschaftlichen. Also wo sind die Dinge, wo der Einzelne nicht nur Objekt in einem parlamentarischen, in einem demokratischen System, sondern Subjekt des demokratischen Systems wird. Und das Dritte, was er sehr nachdrücklich unterstrichen hat und sagt, die marxistische Forschung, indem sie einfach nur von Borgesia spricht, deckt hier einen Grauschleier über die eigentlichen über die eigentlichen verschleiert hier die eigentlichen Gegebenheiten. Katholische Bewegung heißt immer etwas, das im Ansatz und im Kern religiös ist, von der Religion. Dr. Andermatt gestern hätte also von einer katholischen Subkultur gesprochen, geprägt wird, und dass nun in den verschiedenen Situationen und in den verschiedenen Zeiten verschiedene politische Allianzen eingehen. Einmal so, und die Allianzen, die verschiedenen Allianzen sind das, was zwar die Eigenart der jeweiligen Periode der katholischen Bewegung ausmachen, aber die katholische Bewegung hat ihren Ursprung nicht in einer politischen Ideologie, sondern in etwas, was parapolitisch ist, was neben dem Politischen steht. Der Kern ist das Religiöse. Signor Camaglia. Volevo dire che sono profondamente d'accordo con Traniello, particolarmente quando richiama ad un corretto uso del concetto di clerico moderatismo, cioè sostanzialmente ad un uso storico e non pubblicistico. Io direi che alla fine l'impostazione di alcune di queste tesi che sono state qui ricordate risente sostanzialmente proprio di una preoccupazione, direi, pubblicistica, operativa, cioè di poter in qualche modo utilizzare un concetto che si presta, direi, quasi a concentrare due avversioni, in fondo l'avversione al moderatismo e l'avversione al clericalismo, per cui il concetto di clerico moderatismo, riassumendo queste due avversioni, si presta utilmente in qualche modo a una, diciamo, funzione pubblicistica. Quindi da questo punto di vista sono perfettamente d'accordo con Daniello e ritengo che quindi il concetto debba essere usato con una precisa qualificazione sia nei contenuti sia nella periodizzazione. Per che riguarda i contenuti, ritengo che sia preziosa anche la stessa distinzione che ha fatto ora Ponzi nel suo intervento tra clerico moderatismo e conservatori nazionali. In qualche modo, appunto, direi che il conservatorismo nazionale ha già un afflato, una dimensione ideologica maggiore del clerico moderatismo, che mi pare giustamente, correttamente, deve essere visto, come ha fatto Fonzi, essenzialmente nel suo carattere elettorale, come essenzialmente uno strumento, un accordo tra liste, ecco, in certe circostanze così di elettorali, insomma. Per cui, evidentemente, il momento culminante a livello nazionale di questo fenomeno è dato ovviamente dalle occasioni elettorali che ha ricordato anche Ponzi, 1904, 1909, soprattutto 1903, il patto Gentiloni, precedute da un grosso patto locale, Milano, 1895. Però proprio a proposito del patto locale vorrei porre una domanda, cioè vorrei chiedere se non si debba distinguere l'uso del concetto, la sua periodizzazione, in maniera diversa a seconda che si tratti del piano politico nazionale o del piano amministrativo locale. Appunto perché, riferendoci per esempio al patto di Milano, il patto di Milano è importante, 1895, non tanto perché sia la prima volta che ci sia un accordo di questo tipo a livello locale, per la conquista di un comune o per la difesa di un comune, perché Milano ha un'influenza nazionale, è il precedente più immediato di un accordo che poi si sviluppa a livello nazionale nell'accettazione della democrazia parlamentare di cui parlava Pascopo. È importante per questo, soprattutto. Ma certamente non è la prima volta che avviene un accordo di questo tipo a livello strettamente locale. E Bellardinelli, nel suo intervento molto utile anche perché riguarda la genesi del concetto, ci ricordava che l'ha trovato usato nei periodici democratici radicali che configuravano con questo termine correttamente proprio gli accordi tra cattolici, le liste cattoliche e le liste liberali già tra la fine del 70, gli anni 70 e i primi dell'80, e sappiamo tutti che in realtà questi accordi locali cominciano a esserci da molte parti con gli anni 70. Ecco. E questo direi per un motivo molto semplice, ma fondamentale, che dobbiamo tenere presente, cioè il Nord Expedit riguarda solo la partecipazione dei cattolici alla vita politica a livello nazionale, ma non a livello locale. Pio Nono si sa che interpellato spessamente dagli esponenti del governo progressi, dice ma no, voglio che sappia che mi fanno piacere se fanno parte, se si lottano, se si impegnano elettoralmente per la difesa dei comuni, della società cristiana localmente, dove più facilmente si potevano tenere ferme, diciamo, certe tradizioni locali, che ha ricordato molto bene Bellardinelli, opere pie, reti assistenziali, istruzione religiosa, quella affidata ai comuni, eccetera, cimiteri, eccetera. Per cui certamente la partecipazione dei cattolici, come diceva Bellardinelli, prevalentemente l'ispirazione dei cattolici è direi di difesa religiosa, tra virgolette, cioè con un certo tipo di religione, ecco, e della società cristiana dalla secolarizzazione. E direi che da parte dei liberali prevalentemente, però sottolineo prevalentemente, è piuttosto un interesse di blocco d'ordine. E nell'uno e nell'altro caso, sia dei liberali che dei cattolici, direi che è molto complessa poi la genesi, diciamo, economica, no, di questa posizione, perché anche nello stesso interesse per il blocco d'ordine dei moderati non sempre si può ravvisare una precisa matrice capitalistica. Può essere anche un blocco d'ordine di tipo più generale, di tipo strettamente politico, insomma, ecco, politico sociale, più che strutturale. Ecco. Nei cattolici anche la stessa preoccupazione della società cristiana talvolta può avere già in qualche modo configurati degli interessi economici, ma spesso si muove, direi prevalentemente, si muove a livello di ideologia e di mentalità. Per esempio, pensiamo ai cimiteri, insomma, ecco, un piccolo particolare che può sembrare un po' di folklore, ecco, ma ci sono spesso delle lotte furibonde proprio per salvare la società cristiana nei cimiteri, perché luogo sacro, ecco, le lotte furibonde per impedire che vengano sepolti degli atei, dei frammassoni, degli uomini notoriamente iscritti ai gruppi repubblicani, eccetera. Che evidentemente, chiaro, non ci sono interessi di tipo capitalistico, veramente una mentalità, un mondo di sentimenti. E c'è addirittura una dialettica tra questi stessi cattolici organizzati, che quindi a livello nazionale sono intransigenti, una dialettica tra chi vuole essere intransigente anche a livello locale e vuole rifiutare le alleanze con i moderati, e chi è intransigente sì a livello nazionale, eccetera, cioè non essere, però a livello locale è disposto a compromessi storici. Insomma. E quindi voglio dire, è un mondo estremamente variegato, per cui la domanda, pur essendo estremamente corretti nell'uso di questo termine, dandogli quei contenuti che ha indicato Fonzi e periodizzandolo a livello nazionale per la fine del Novecento, per la fine dell'Ottocento, prima del Novecento, mi sto domandando se a livello locale non è già legittimo usarlo fin dagli anni 70. Herr Camaiani, stimmt durchaus mit Herrn Panaiello überein, wenn Klerikomodalismo nicht wie in der Publizistik mit den zwei negativ aufgeladenen Begriffen Clerico und Moderatismo beladen will, sondern als historisch klar konturierbaren Begriff, sowohl in Bezug auf den Inhalt wie auf die Periode, für die man ihn benutzen kann, haben will. Er will aber jetzt nur einen Schritt weitergehen und sagt, muss man nicht prinzipiell auch in Bezug auf die Verwendung des Begriffs Clerico Moderatismo unterscheiden zwischen den verschiedenen Ebenen, auf denen das politische Leben sich abspielt. Das Verbot nun expedit gilt nur für die Parlamentswahlen eben auf der nationalstaatlichen Ebene. Clerico Moderatismo gleich Zusammenarbeit auf der nationalstaatlichen Ebene ist aber etwas ganz anderes als Zusammenarbeit von Katholiken mit Liberalen im kommunalen Bereich. Und hier sind schon von den 70er Jahren an, schon aus der konkreten Situation heraus gibt es Zusammenarbeit je und je, er bringt dann das Beispiel des Friedhofs. Der intransigente Katholik will nicht, dass auf dem Friedhof Freimaurer beerdigt werden. Und diese ganz konkrete Frage, sollen auf dem katholischen Friedhof Freimaurer beerdigt werden oder sollen sie nicht beerdigt werden? Wenn wir nicht zusammenarbeiten werden, wenn wir uns nicht einigen können, dann werden sie beerdigt. Wenn wir uns einigen können, werden sie nicht beerdigt. Das führt schon zu Formen der Zusammenarbeit, die natürlich von beiden Positionen, von der liberalen und von der katholischen Seite her, mit anderen Zielen verfolgen. Was die Katholiken wollen, ist die Säkularisation abwenden. Was die Liberalen wollen, ist eine Ordnungsmacht etablieren. Und wenn man das in beiden Ebenen unterscheidet, fragt er, ob man dann nicht zu einem angemessenen Begriff des Clerico Moderatismo komme, der dann auch auf die Einzelfälle besser anwendbar wäre. Man hätte dann zwei Begriffe, einmal für die gesamtstaatliche Politik, einmal für die im Einzelnen außerordentlich wichtige und das Leben des einzelnen Menschen außerordentlich, also für das, was man Geschichte von unten nennt, im Deutschen Geschichte von unten nennen würde. Se possiamo chiudere con questo. Ma le risposte, faccio in 5 minuti. Se no si rimanda. Se mi concedete 5 minuti ancora. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. Mi sembra che la maggior parte degli interventi siano di fatto delle integrazioni, delle sottolineature. Sì, e che quindi sono dei contributi ulteriori alla mia relazione, mi rendo conto, è stata anche eccessivamente schematica. Così l'intervento di Lille mi è interessato molto questo parallelismo con una tematica proprio del mondo germanico, quella di Brezzi, l'intervento di Belardinelli, il quale tra l'altro mi ha fatto... Mi sembra che possa essere importante anche perché si potrebbe verificare se per caso l'uso del termine clerico moderato da parte per esempio di un Candeloro nel senso antidatato rispetto a quello che è più diffuso nella storiografia invece di matrice, diciamo così, cattolica, non derivi dal fatto che la frequentazione degli autori democratici di questi storici marxisti è maggiore, per cui in effetti forse noi abbiamo accolto questo termine perché abbiamo letto i muri, la cultura sociale, i dibattiti, e mentre invece forse loro avevano una maggior conoscenza, hanno una maggior conoscenza di questo tipo di pubblicistica radicale, democratica. Quindi qui effettivamente si innesta, come vedete, i problemi si innestano uno sull'altro e diventano com'è giusto, ancora più complessi. Ecco, alcune brevissime osservazioni, l'osservazione di Zaninelli, anch'io sono convinto, e credo di averlo reso esplicito, che queste per esempio di Rossi sono ancora delle ipotesi di lavoro che devono essere suffragate da ulteriori ricerche soprattutto a livello locale, zona per zona. E, d'altra parte accolgo l'osservazione di Zaninelli come l'indicazione di certe carenze che certamente ci sono da parte degli storici economici, per cui io invito Zaninelli e tutta la sua equipe, tutti gli storici economici, a produrre molto, ma appunto perché io invece credo che la storiografia economica, di cui Zaninelli certamente è uno dei migliori rappresentanti, italiana e non italiana, qualche cosa in effetti abbia prodotto, ricorderei che a parte i dibattiti tra Romeo, Gershenkron, che sono stati, mi pare, ampiamente recepiti anche da una storiografia non economica di Caracciolo, per esempio, su Roma in particolare, ma in generale sulla storia economica italiana, ci sono oggi effettivamente una serie di testi e di lavori già finiti o in atto che possono essere certamente discutibili, ma che non mi pare configurano un vuoto così quasi pneumatico. Insomma, ricordo soltanto le cose di Castronovo, le cose di Abrate, i saggi di Merli, di Franco De Felice, di Procacci, di quello storico inglese Clough, credo che si pronunci, Clough, su storia dell'economia italiana, di Monelli su osservazioni date sul finanziamento dell'industria in Italia, di Sereni ancora, di Are, eccetera. Quindi una certa, anche da questo punto di vista, mi pare che certe basi ci sono. Naturalmente tutto è discutibile e noi ci auguriamo che anche gli storici economici, da questo punto di vista, diano dei nuovi contributi. D'altra parte non credo nemmeno che si possa, si può certamente criticare, ma non si può oggettivamente impedire lo sviluppo della storiografia, appunto come qualcun altro aveva osservato, dicendo che esistono, mancano in un certo modo i dati. I dati ce ne sono alcuni, sono quello che sono, devono probabilmente essere ancora verificati, però, e quindi credo che da questo punto di vista la storia economica possa produrre ancora molto e darci delle ulteriori indicazioni in questo senso. Anche Scopola mi pare che abbia piuttosto integrato la mia relazione, credo che questa tematica, condivido pienamente questa distinzione e questa ambiguità iniziale del termine stesso di democrazia, che è l'ambiguità propria del movimento democratico cristiano, nel senso che io ho brevemente, forse confusamente, riassunto per Andermatt. Mentre è certamente più complessa la questione si fa circa gli interventi di Fonzi e di Camaiani, che mi pare vertano entrambi su questo problema abbastanza centrale e un po' da me trascurato, cioè dei presupposti clerico-moderati a livello amministrativo. Questo è un tema che serve molto e di cui si servono molto questi autori, che parlano di un blocco storico che si è precedentemente formato rispetto alla sua espressione, politica nazionale, cioè dell'epoca giolittiana, per affermare che in realtà il clerico-moderatismo è più vecchio. E qui certo credo che ci sia, non risponderei in modo netto alla domanda di Camaiani, credo che ci sia molto da vedere ed è perfettamente valida la sua osservazione. Ricorderei per esempio che in città anche importanti e anche in via di industrializzazione come Brescia, come Bergamo, come Venezia, come vari centri veneti, eccetera, effettivamente da tempo i cattolici governavano la città, amministravano in alleanza con i liberali moderati. Ecco. In questo senso quindi mi pare utile e importante il richiamo di Fonzi al caso specifico milanese. Mi sembra che Fonzi sottolinei il fatto che lui, parlando di clerico, in quella sede di clerico moderatismo, si riferiva esclusivamente, si riferiva principalmente, cioè all'ambito della sua ricerca, che era la situazione di Milano di quegli anni. Tuttavia, ecco, quanto diceva Fonzi, io farei, e può darsi che abbia in un certo modo forzato un po' l'interpretazione, nel senso che mi era sembrato dalle sue pagine che lui effettivamente vedesse nelle tattiche clerico-moderate di Milano del 95 la premessa di quello che sarebbe poi stato uno sviluppo autonomo di un partito cattolico in epoca successiva, no? Ora, quindi, se questo non è vero, senz'altro accetto le limitazioni che richiamo al contesto preciso che Fonzi ha fatto. Tuttavia mi permetterei di fare tre osservazioni a quello che Fonzi diceva. Egli ha insistito sul fatto che, a suo modo di vedere, il clerico moderatismo a livello è essenzialmente uno strumento elettorale. Ora, questo, qui ritorna un po' la faccenda dell'incidenza della funzione degli strumenti. Insomma, io sono personalmente convinto, e l'ho detto anche nella mia relazione, che la scelta di certi strumenti, anche elettorali, anziché di altri, in realtà non possa essere mai o quasi mai ridotto ad una pura tattica, oppure è nell'intenzione di chi usa di questi strumenti per una certa tattica, ma finisce per ricadere, per qualificare, per caratterizzare poi anche i contenuti reali, i politici. Il fatto che si scelgano certi strumenti anziché di altri, anziché altri, finisce poi per che si scelgano certe politiche, certe linee politiche anziché altri. Questo è il primo punto di come sono anch'io molto d'accordo con Fonzi quando insiste su questo elemento strumentale, ma con questo non mi sentirei di dire era un fatto tattico e sostanzialmente momentaneo, vero? Perché in effetti poi la tattica, se vogliamo usare questo termine, critico moderata, si è consolidata in epoca successiva. Il secondo punto riguarda la sottolineatura da parte di Fonzi che attraverso questa tattica clerico moderata si ha da parte dei cattolici, o perlomeno dei clericali, usiamo questo termine, vero? Cioè del cattolicesimo organizzato, vero? L'accettazione dello Stato costituzionale e rappresentativo. Anche questo è vero, ma io sottolineerei però il fatto che questo significava accettare appunto quello Stato costituzionale e rappresentativo, cioè in definitivo rappresentava o poteva rappresentare però il meccanismo attraverso il quale le istanze riformistiche che pure erano presenti nel movimento cattolico in realtà venivano sacrificate a questa accettazione. Però ci sono quindi le due facce della medaglia: significava accettare uno Stato che era quello oligarchico, così con una partecipazione, con un elettorato estremamente ristretto, con tutte quelle disfunzioni e squilibri che pure sono presenti. Quindi il problema si sposta, ed è il terzo punto, cioè che se quella era una tattica, però l'attenzione nostra come storici probabilmente si deve allora vedere, deve allora cercare di vedere, però di indicare che cosa concretamente, cioè qual è stata poi di fatto la politica di quelle forze cattoliche che secondo Fonzi si sono poste come alternativa ai socialisti ma anche ai liberali. Intendo dire, e qui di nuovo il mio richiamo è alla necessità di analisi concrete, precise, e sono perfettamente d'accordo con Fonzi, però la nostra attenzione si sposta, si dovrebbe spostare nel vedere come per esempio amministrativamente queste forze emergenti si sono comportate. In effetti, questo cambiamento di personale politico, diciamo così, il fatto che attraverso le tattiche clerico-moderate dei cattolici assumessero il governo, l'amministrazione delle città, ha significato che poi la politica fatta, per esempio, a livello locale, amministrativo, è stata progressista, democratica, si è manifestata in una direzione di effettiva riforma, o perlomeno di riformismo illuminato, oppure ha significato l'acquisizione di strumenti di potere da parte però di forze che si sono poi comportate in modo moderato, cioè di fatto simile se non è conservatore, simile a quelli, alle forze liberali. Perché in questo secondo caso l'alternativa è un'alternativa di ceti dirigenti, ma non è più un'alternativa, mi sembra, rischia di non essere più o di vanificare un'alternativa di linea politica e di programma. E quindi io anche a questo non do una risposta. Da quanto ho letto e ho visto, in certi casi, per esempio nel caso di Torino, Salvadori, gli do credito, insiste sul fatto che i programmi poi realizzati dai cattolici erano estremamente conservatori. Ma naturalmente questo bisognerebbe fare degli studi. Può darsi che in altri casi invece emerga meglio la istanza riformistica, democratica, che pure il movimento cattolico aveva al suo interno. Raniello hat es also auf sich genommen in 5 Minuten, wenn man das etwas intensiv interpretiert, in einem Husarenritt, sozusagen auf alle Bemerkung noch einmal einzugehen. Allgemein sei sein Eindruck, dass er eigentlich weniger Widerspruch als Bestätigung und Fortführung dessen, was er gesagt habe, gefunden habe. Das gilt insbesondere für die Beiträge von Herrn, Herrn Brezzi und Herrn Bellardinelli. Gegenüber Zaninelli hat er eingewendet, dass Rossi weithin auf Hypothesen sich stütze und nicht auf Hypothesen, die bereits positivistisch durch Fakten abgesichert seien. Das habe er auch betont. Aber andererseits sei ihm der Ausdruck voto, fast als voto pneumatico, ich weiß nicht, wie man das ins Deutsche übersetzen, luftleerer Raum, das sei doch wohl etwas zu spitz formuliert, und er hat dann, wenn ich recht gezählt habe, 9 Titel von einzelnen Arbeiten, deren Autoren ich nicht kenne und deren Inhalt ich nicht kenne, zitiert, die wir aber hier, glaube ich, nicht zu wiederholen brauchen. Und dann hat er vor allen Dingen gesagt, die Diskussion, die historische Diskussion muss hier und geht hier, wie auch anderswo weiter. Und wenngleich wir das notwendige wirtschaftsgeschichtliche Fundament noch nicht haben, wir müssen uns mit den Dingen auseinandersetzen. Im Übrigen hat er einen Appell an Herrn Zaninelli und seine Mitarbeiter gerichtet, dieses gute wirtschaftsgeschichtliche Fundament zu liefern. Mit Herrn Scopola ist er im Allgemeinen einverstanden. Was Herr Camajani vorgeschlagen hat, unterstützt er sehr und durchaus und meint, dass das Studium der Lokalverwaltung und der Administration am Ort auch gerade in Bezug auf Industrialisierung in Brescia, in Bergamo, in Venetien und so weiter zu untersuchen sei. Es ist dann zum Schluss noch einmal in 3 Punkten teilweise bestätigt, teilweise auch sich absetzen auf Herrn Fonzi eingegangen. Punkt 1. Wenn Clerico-Moderatismo nur Wahlinstrument ist, so wiederholt er das, was er in seiner Relation gesagt hatte, Auswahl der Mittel, selbst wenn sie nur reine Taktik wäre, enthebt uns nicht der Frage, was ist denn dann mit diesen Mitteln, nachdem sie angewendet worden sind, geschehen? Welche Politik haben dann diejenigen geführt, die gewählt worden sind? Den zweiten Punkt habe ich nicht ganz richtig verstanden. Der dritte heißt noch einmal, wenn Taktik, das ist nur eine Abwandlung des ersten Punktes, wenn Taktik, was haben Sie nachher getan? Wie haben sich diese Kräfte verhalten in der Lokalverwaltung? Haben Sie dort Reformen durchgeführt? Ja. Oder haben Sie versucht, zurückzuführen? Haben Sie eine reaktionäre oder eine konservative oder eine gemäßigte oder eine radikal progressive Politik betrieben? Das heißt also, selbst wenn man die Prämisse Clerico-Moderatismo als Taktik akzeptiert, heißt die Frage, die der Historiker sich nachher stellen muss, was tun diese Taktiker? Und aus dem ganzen Takt des Vortrags, der Referate und der Diskussion versuchen wollen, Herr Isalo, der über den deutschen Sozialkatholizismus, den sogenannten Sozialkatholizismus sprechen soll, hat insgesamt 5 Abschnitte. Wir werden jeweils den Abschnitt durch ihn vortragen lassen. Herr Lindl ist so liebenswürdig, dann eine kurze Zusammenfassung zu geben, und dann wird dieser Abschnitt diskutiert. Und so weiter. Und wir hoffen, dass wir zum Schluss auch dann noch für eine Generaldiskussion ganz kurz etwas haben. Dadurch wollen wir erreichen, dass die Diskussion sich mehr auf einzelne Themen hintereinander konzentriert und auch, dass diejenigen, die die andere Sprache nicht beherrschen, nicht hier eine Stunde lang wie Wasser eine fremde Sprache über sich ergehen lassen müssen. Denn das hier ist ja keine aszetische Übung, sondern ein wissenschaftlicher Block.